Buonasera a tutti, sono Franco Ippolito e ringrazio di questa bella partecipazione e ringrazio i nostri relatori, a cominciare dall'Istituto Cattaneo, da Pier Giorgio Ardeni. Abbiamo accolto con grande interesse e grande piacere questa proposta di fare qui una presentazione delle valutazioni che l'Istituto ha fatto dei dati elettorali, perché una fondazione come questa, che è una fondazione di cultura politica, vuole capire ciò che sta accadendo nelle nostre società, in Italia e in Europa, partendo da dati di fatto e non da mere impressioni. Già dalle prime valutazioni che sono state diffuse dell'Istituto, che io ho letto, ciò che emerge è grandi, importanti movimenti con una differenziazione piuttosto netta fra ciò che accade in Italia e ciò che è accaduto nel resto d'Europa, al di là di ciò che emerge dal titolo dei giornali, che fanno una sommatoria un po' confusa di tutte le vicende. Per noi la discussione di questa sera non è certo un punto, come dire, di arrivo, ma è l'inizio proprio di una riflessione, perché siamo impegnati in questa fase in cui i vecchi partiti politici sono, parlo dei partiti del secondo Novecento, o finiti o lentamente in via di dissolvenza. Noi vorremmo tentare di conservare di quell'esperienza, magari insieme alle altre fondazioni, le migliori culture politiche, al di là della dissipazione che la classe dirigente propriamente politico-partitica ha fatto. Partire da elementi concreti di analisi è la premessa per ragionare al meglio. Grazie a voi e grazie ai nostri ospiti e a Pier Giorgio Ardeni. Bene, io ringrazio Franco Ippolito e la Fondazione, perché per noi è un grande onore essere qua. E quest'anno abbiamo voluto proprio, come dire, aprirci e abbiamo pensato appunto di presentare le nostre valutazioni, i nostri studi anche fuori da Bologna, per rimarcare il carattere nazionale anche del lavoro che noi facciamo, e quindi partire da Roma per noi era importante, partire poi da un luogo come questo, una fondazione che ha le radici che ha e il significato anche politico e culturale che ha, per noi è un grande onore. Quest'oggi sono qui con Marco Valbruzzi, che è un nostro ricercatore, che coordina il gruppo di analisi elettorale dell'Istituto. Quest'anno abbiamo fatto un grosso sforzo, come forse avete potuto vedere dalle analisi che abbiamo pubblicato. Tra prima e dopo le elezioni abbiamo, come dire, sviscerato il dato del risultato elettorale prima delle elezioni, come cosa dicevano i sondaggi e cosa stava maturando nel paese e in Europa, e dopo le elezioni, guardando ai diversi aspetti di cui parleremo questa sera. Per questa sera abbiamo voluto avere qua un parterre che non è tanto di analisti elettorali quanto per un parterre di persone che conoscete e che ci consentiranno di fare una valutazione politica, strettamente politica, sociale, economica, ma strettamente politica di questo risultato elettorale, che, come sapete, ha due facce, cioè aveva la faccia del voto per le elezioni europee, ma aveva anche una faccia del voto per le elezioni amministrative, che sono un altro tipo di elezioni. Anche questo ha rivelato tendenze interessanti per riflettere dell'Italia, per riflettere di questo paese di questo paese smarrito, potremmo dire. È un paese che è sempre più smarrito e che sempre più sembra muoversi in modo diverso dagli altri paesi europei. È un paese che si è un po' perso, si è anche un po' guastato forse, se così posso dire. Quindi io darei la parola adesso a Marco Valbruzzi, dopodiché abbiamo Elly Schlein, che conoscete, che è stata parlamentare europea, e su questo io vorrei anche sentire una sua testimonianza e una sua opinione sul vecchio Parlamento europeo e su come vede il nuovo, e anche sulla sua scelta, che è stata una scelta importante rispetto al non ripresentarsi alle elezioni. Abbiamo Fabrizio Barca, che conoscete naturalmente, e che ho voluto, a cui ho chiesto di partecipare per portarci il contributo di studioso, ma anche di politico, diciamo così, dal punto di vista politico, e Beppe Provenzano, che invece viene qui, anche lui ha una, come dire, ha una forte passione politica, però sicuramente dalla sua posizione di vice direttore della Svimez ci può dare un punto di vista importante sul sud d'Italia. Bene, io aprirei quindi la tavola questa sera con Marco Valbruzzi, che ci farà una rapida carrellata. Ho notato subito il rapida, quindi mi ha fatto intuire che devo essere abbastanza veloce. Grazie alla Fondazione Basso e anche al Presidente Ardenni per l'invito, grazie e buonasera a voi per essere qui con noi questa sera. Allora, che cosa è successo il 26 maggio? Sappiamo che c'erano due livelli di elezione, prima di tutto, il livello amministrativo e il livello europeo. Stranamente, ma non più di tanto, il livello che a noi ha interessato di più, al dibattito pubblico ha interessato di più, è stato quello nazionale. Non si votava per il livello nazionale, quindi non votavamo per il Parlamento, né per il Senato né per la Camera, però inevitabilmente le conseguenze sia dal basso verso l'alto, cioè del livello amministrativo sul piano nazionale, e le conseguenze del livello sovranazionale sul piano nazionale sono state le più importanti. Cioè stiamo discutendo, e anche il governo in questi giorni sta discutendo, di come ritrovare la quadra sulla base anche dei risultati del 26 maggio. Che cosa è successo il 26 maggio? Qui cerco di rimanere sul piano nazionale, anche se poi mi piacerebbe interloquire sulle altre dinamiche, le dinamiche sovranazionali, perché per la prima volta sono davvero dinamiche diverse, non c'è un trend unico, non possiamo dire in Europa è andata così e dalle altre e in Italia è andata così. Cioè bisogna distinguere almeno zona per zona, quindi che cosa è successo nell'Europa centro-orientale, che cosa è successo nell'Europa del Sud, che cosa è successo nell'Europa continentale, cosa è successo nel Regno Unito e così via. Non è possibile individuare un trend unico. Quello che sappiamo, e su questo mi soffermo, è quello che è successo in Italia. In Italia abbiamo, in questo caso prendo le elezioni europee, poi magari possiamo discutere anche del livello amministrativo. Faccio solo un breve cenno sull'amministrativa, perché ci continuano a dire che gli elettori sono molto più abili, molto più scaltri, molto più ragionevoli di quanto noi pensiamo. Nel senso che non c'è un'unica condizione, un unico comportamento elettorale omogeneo tra elezioni europee e elezioni amministrative. Vanno a votare avendo una loro predisposizione, avendo un loro approccio nelle elezioni europee, e poi invece a livello amministrativo conta il dato amministrativo locale. Quindi sono molto ben disposti nella dislocazione, nella divisione dei loro compiti. Questo è un segno, se volete, anche di maturazione dell'elettorato nel momento in cui si trova a scegliere all'interno di due arene di competizione diverse. Nell'arena sovranazionale, cioè nella competizione europea, abbiamo avuto due vincitori molto chiari, un perdente altrettanto molto chiaro e un partito che tengo per ultimo, che ha un risultato diciamo incerto. Ho letto anche in questo caso le interpretazioni del dopo voto, cioè del 27 maggio, si dividevano sul come sono andate le elezioni per il partito che per il momento tengo per ultimo, e su questo poi dirò qualcosa perché mi piacerebbe sentire anche cosa pensano gli altri relatori. I due vincitori molto chiari sono chiaramente la Lega e Fratelli d'Italia, sono i due partiti che avevano una chiara connotazione, oggi sento che si dice sovranista e quindi mi adeguo al filone del sovranismo, due partiti sovranisti fortemente nazionalisti con due culture identitarie, ideologiche molto chiare, probabilmente quelle più chiare che erano presenti alle elezioni, e quei due partiti escono vincenti, escono vittoriosi da questa tornata elettorale nelle elezioni europee. Ovviamente in misura diversa, in proporzione diversa, la Lega in proporzione come probabilmente inaspettata anche da chi seguiva i sondaggi alla vigilia, anche nel periodo del cosiddetto blackout, non ci immaginavamo che potesse arrivare al 33-34%, tutte le proiezioni che ci arrivavano il giorno stesso delle votazioni lo davano al di sotto del 30%, tutti gli exit poll, gli opinion poll che circolavano in maniera un po' affannosa il giorno delle elezioni ci dicevano che la Lega stava sotto il 30%. Ci siamo invece svegliati la mattina del 27 con quel ribaltamento completo dei ruoli tra la Lega di Salvini al 33-34 e il Movimento 5 Stelle al 17. Eravamo abituati dalle elezioni del 2018 ai rapporti di forza completamente opposti, e quindi quel 33% del Movimento 5 Stelle oggi è diventato 17%, il 17% invece della Lega è diventato quel 33% del 34% della Lega di Salvini. Quindi ha completamente ribaltato il quadro delle forze, del rapporti di forza dentro il governo. Dall'altra parte ovviamente anche Fratelli d'Italia, cresciuta enormemente rispetto alle ultime elezioni politiche e alle ultime elezioni europee, 1.700.000 voti, 6% di consenso a livello europeo, e questa è questo è il connotato politico, il colore politico che hanno queste elezioni in Italia. Una svolta a destra, un partito, due partiti che vincono, chiaramente identificati da un punto di vista ideologico, con una cultura politica piuttosto chiara, che hanno portato, che se volete hanno spostato in maniera significativa il baricentro politico del consenso politico, del sentimento del paese, verso una direzione piuttosto chiara. Fratelli d'Italia e Lega da una parte. Due chiari perdenti, me ne ero dimenticato uno, il chiaro perdente è sicuramente il Movimento 5 Stelle, esce dimezzato, quasi completamente dimezzato dalle elezioni del 2018, esce con una geografia elettorale molto modificata, in parte modificata, si è indebolito, si è sgonfiato in maniera significativa nelle regioni centro-settentrionali, continua a tenere ma con molta fatica, e poi su questo magari possiamo entrare nel dettaglio, nelle regioni del sud, di nuovo diminuendo, sgonfiando la bolla rispetto al 2018, ma ancora come un partito che si connota da un punto di vista geografia elettorale nelle regioni meridionali. Anche su questo è interessante, perché le regioni meridionali diventano, o potrebbero diventare, la mia previsione è che sicuramente diventeranno il lago della bilancia, è lì che ci sarà la competizione maggiore, la maggiore concorrenza in termini politici elettorali, perché hanno dimostrato di essere davvero fluidi, davvero di essere mobili, mobilitabili, ed è lì che bisogna guardare nei prossimi mesi se vogliamo capire che aria tira. Altro sconfitto, ma uno sconfitto che ormai è abituato o ci ha abituati alla sconfitta, è il partito di Berlusconi, Forza Italia. Anche in questo caso è uscito, scherzando, lo abbiamo definito il cavaliere dimezzato, ha completamente perso la metà dei voti rispetto al 2018, rispetto al 2014, ed è diventato un piccolo partito dentro la coalizione di centrodestra. Un piccolo partito che ancora per qualche tempo è il secondo dentro la coalizione, sempre più, come dire, sfidato, sempre più in concorrenza con il Fratelli d'Italia. Quindi è una coalizione che si è fortemente sbilanciata, ha ridotto la sua componente moderata e poi infine ha gonfiato le ali più estreme. Ultimo punto, perché dovevo essere rapido e forse non lo sono stato, ultimo punto, il Partito Democratico. Cioè, che cosa è successo al Partito Democratico, ma sarebbe interessante anche capire che cosa è successo al PD e poi a tutta quell'area che non è il PD ma che si muove nell'alveo del centrosinistra. Anche questo è un elemento che deve essere inevitabilmente analizzato, compreso e possibilmente anche risolto, perché come sapete c'è una marea di voti che hanno scelto liste che non hanno ottenuto seggi in Parlamento europeo, che quindi sono rimasti totalmente privi di rappresentanza parlamentare. Più Europa alla destra, se mi fate dire così, del Partito Democratico, e poi alla sinistra qualche lista che non appartiene al Partito Democratico, Europa Verde, e le liste ancora più a sinistra, la sinistra, che appartengono appunto all'ala sinistra del Partito Democratico. Per il Partito Democratico io ho usato la definizione, l'immagine di una vittoria difensiva. È una vittoria perché è sicuramente in calo e in perdita rispetto alle elezioni del 2014. Quel risultato del 48% non era realisticamente raggiungibile oggi da questo Partito Democratico in un paese che ha fortemente svoltato verso destra, e poi magari anche qui sarà interessante capire perché questo paese e come mai questo paese ha svoltato in questo momento in maniera così forte, in maniera così repentina verso destra. È, come dicevo, una sconfitta se osserviamo il 2014, è una vittoria molto limitata nei numeri ma comunque significativa rispetto alle elezioni del 2018. Erano nel 18 gli elettori votanti del PD, con qualche complicazione sulla quale non entro perché è difficile stabilire davvero quanti erano i voti del Partito Democratico, perché come sapete noi votavamo un candidato nel collegio e una volta che noi votavamo solo il candidato nel collegio quel voto si divideva tra le varie liste, quindi è difficile capire quanti fossero i milioni di elettori del Partito Democratico, però sappiamo che erano all'incirca 5 milioni e 9, 6 milioni. Che è il risultato che ha ottenuto 6 milioni e 50 nelle elezioni europee del 2019. Quindi c'è stato un piccolissimo passo in avanti, un segno positivo, che definisco appunto una vittoria, ma una vittoria difensiva. Oggi il Partito Democratico non poteva ambire ad una guerra di movimento, non poteva andare a intercettare elettori delusi dal Movimento 5, o meglio, poteva anche farlo, non era nelle condizioni di farlo, poteva darsi questa prospettiva ma non aveva la forza, non aveva il partito ancora pronto e neanche la visione del partito per andare in questa direzione. Quello che poteva fare era serrare i ranghi, perimetrare il proprio consenso elettorale, il proprio elettorato, rafforzarlo, e questo è quello che è riuscito a fare, cioè una vittoria non di allargamento, non di espansione, ma di contenimento. È riuscito per la prima volta a livello nazionale, dal 2018 in avanti, a non perdere elettori verso i 5 Stelle, non perdere elettori verso la Lega, non perdere elettori verso l'astensione. Per un partito che era calato, che era tonfato, non so se posso dirlo, che era caduto così in basso, il tonfo del 2018 a quel 18,7%, riuscire per la prima volta a non perdere voti verso appunto le sirene dei 5 Stelle, le sirene che oggi suonano ancora più forti della Lega e ancora più forti ancora quelle dell'astensione, per il Partito Democratico questo è stato un grande successo, perlomeno un successo che spiego come una vittoria di difesa del proprio elettorato. Ovviamente non può accontentarsi di una vittoria di difesa, di una vittoria difensiva. Il compito oggi è di spostarsi, uso il termine, la terminologia militare, ma solo per intenderci, spostarsi da una guerra di difesa o appunto di contenimento a una guerra di movimento. Devi incominciare a capire come andare a intercettare elettorati nuovi, elettorati delusi, disillusi tra i scettici dei 5 Stelle, probabilmente gli arrabbiati della Lega e anche tutta quell'area che si muove dentro il partito o i partiti, perché non ce n'è solo uno, dell'astensione. Questo è quello che è successo il 26 maggio. Un'Italia che ha svoltato a destra, ma in un contesto europeo molto diverso rispetto alla dinamica nazionale. Mi fermo qui e poi eventualmente sulla dinamica nazionale ridico qualcosa. Infatti magari torniamo dopo anche sui flussi e guardando avanti. Visto che parliamo di Europa, io passerei la parola a Elly per capire che cosa, con Elly, che cosa sta succedendo in Europa. E c'è stato un momento quando si parlava dell'applicazione dell'articolo 7, no, di Orban, che possiamo vedere forse come un momento, un punto di una chiave di volta della politica europea e di quello che sta succedendo in Europa. In Europa sicuramente, abbiamo detto, abbiamo visto, non hanno vinto i sovranisti come hanno vinto in Italia. E però il movimento è molto, il panorama è molto frammentato. Sì. Cosa ne pensi, cosa ne dici? Buonasera a tutte e a tutti, mi sentite? Sì, è acceso. E, volevo ringraziarvi intanto dell'invito, ringraziare l'Istituto Cattaneo per l'utile e prezioso contributo che offre ogni volta con le sue analisi, anche perché dopo voti come questo uno ha bisogno anche, no, di andare a leggere il dato a fondo, a capire quello che sta succedendo nel Paese e nel resto d'Europa, e ringrazio ovviamente la Fondazione Basso per ospitarci oggi, che mi fa particolarmente piacere, lo spiegavo prima, perché in realtà fu proprio Lelio Basso a invitare mio nonno ad andare a trasferirsi a Milano e lavoravano insieme, quindi anche emotivamente è anche bello essere qui. Partiamo appunto dall'Europa. Cosa è successo? Come si diceva prima, è difficile trarre un quadro univoco di quello che è successo in Europa, bisognerebbe andare a guardare le diverse aree, però si può dire tutto sommato che dal punto di vista della composizione delle maggioranze al Parlamento europeo non ci sono state grosse sorprese. Tutti ci aspettavamo già da mesi, purtroppo, un rafforzamento di quelle forze nazionaliste e di estrema destra che in effetti c'è stato, ma tutti sapevamo, soprattutto conoscendo le dinamiche del Parlamento europeo, che non avrebbero avuto da soli una maggioranza. Si è a lungo parlato di uno scenario molto pericoloso, quello dell'eventuale smottamento verso destra del gruppo dei popolari europei, che era già nella legislatura che va a chiudersi il gruppo di maggioranza relativa, popolare europeo, quindi centrodestra fondamentalmente, verso i nazionalisti o sovranisti, come qualcuno li chiama, con una potenziale maggioranza di quel tipo, di quella natura. Ora, se guardiamo i dati, in realtà, come molti di noi si aspettavano, quella è la, diciamo, sono i numeri meno significativi. Cioè, voi sapete che il Parlamento europeo non ha una maggioranza fissa, a seconda dei dossier che discutiamo si possono anche formare maggioranze trasversali. L'epoca, diciamo, della grande coalizione stabile tra socialisti e popolari è in realtà già andata in crisi durante questa legislatura, a metà, quando fu eletto presidente Tajani, e cambiarono radicalmente questi equilibri, poi appunto a seconda delle diverse commissioni. Però fondamentalmente si può dire che oggi la maggioranza socialisti popolari per la prima volta non basta più, e però una maggioranza socialisti popolari e liberali europei, che hanno avuto una spinta forte, data in particolare dal contributo di Macron in Francia, ma non solo, perché sotto traccia Macron ha molto lavorato in altri paesi europei a rafforzare le proposte liberali, no? Tessendo reti, eccetera. Il risultato è che i liberali hanno adesso, mi sembra, 107 forse addirittura, voi avete i numeri perché non mi prende internet qui, quindi non potevo verificare, mi sembra che fossero 107. Ecco, 107 deputati, considerate che prima ne aveva 68 se non sbaglio, quindi c'è una crescita molto significativa. Quindi questa nuova maggioranza, pur davanti, scusate, ditemi voi se devo, come devo fare perché sento gli dati. Non molto vicino, quindi sto qui. Dicevo, a parte che secondo me mi sentite anche senza praticamente, ecco, vi dicevo, così mi sento più a mio agio. C'è stato quel ridimensionamento del gruppo popolare e del gruppo socialista che noi ci aspettavamo dai sondaggi degli ultimi mesi. Quello dei socialisti è stato più contenuto di quello che ci si aspettava, anche perché c'è stato un successo importante del Partito Socialista Spagnolo con Sanchez, che ha portato un buon numero di parlamentari nel gruppo socialista a Bruxelles, e anche a Costa in Portogallo è andata piuttosto bene. Male invece il risultato di Corbyn, che tutti si aspettavano un po' più alto. Lì ci sarebbe da aggiungere una parte di riflessione su questo, e cioè: in alcuni paesi il voto è stato giocato su una polarizzazione molto forte proprio sul tema europeo. Chiaramente il primo di questi è il Regno Unito, dove il fattore Brexit ha pesato moltissimo. E l'impressione al leggere il voto, chiaramente senza gli strumenti analitici che avete voi, è che forse la mancanza di chiarezza sulla posizione sulla Brexit non abbia premiato i laburisti, non abbia premiato in realtà anche i conservatori, che sono divisi ormai in mille fazioni interne. Chi ha premiato, purtroppo, ha premiato proprio chi quel caos l'ha voluto creare, per poi spaventarsi del suo esito. Ricordo bene il collega Farage che fece una conferenza stampa per dire c'è mancato poco, e poi dimettersi il giorno dopo a fronte della vittoria, perché non se l'aspettavano nemmeno loro e non avevano molta voglia di avere a che fare con le conseguenze di quel voto. Fa piuttosto impressione che oggi sempre loro riscuotano l'incapacità degli altri di trovare soluzione ad una vicenda che è obiettivamente molto complicata da risolvere. Però col suo nuovo partito Brexit, fondato giusto credo 2 o 3 mesi fa, è passato all'incasso e ha fatto circa il 32-34%, ecco. Invece i socialisti e i conservatori pagano molto, e chi viene anche premiato in quel contesto? Beh, i liberali e i verdi, che sono due partiti che anche in quella contesa sono stati molto chiari dall'altra parte sulla necessità di tornare indietro rispetto alla Brexit, di fare un secondo voto popolare. Questo perché lo dico? Perché non è solo nel Regno Unito che è successo, la mancanza di chiarezza sull'Unione Europea e sulle prospettive future credo che sia forse anche uno dei motivi che ha pagato il Movimento 5 Stelle qui rispetto ad altre proposte più nette. Cioè tu avevi chiaramente Fratelli d'Italia e Lega con una posizione fortemente critica dell'Unione e avevi dall'altra parte un Partito Democratico che addirittura scrive siamo europei nel suo simbolo, quindi ecco un po' questa polarizzazione c'è stata, era più difficile individuare una posizione chiara da parte del Movimento 5 Stelle. Ma stando in Europa, cosa vi posso dire? Che oggi quella maggioranza tra SD, popolari e liberali arriva a 435 deputati su 751, voi capite che è una maggioranza solidissima e io credo che questo sia lo scenario più probabile, nel senso che la maggioranza per lo più sarà garantita da questi gruppi. Mi potrei sbagliare perché ci sono alcune partite importanti da definire, come la elezione, cioè la nomina del nuovo presidente della Commissione Europea, su cui la partita è apertissima, perché tecnicamente voi sapete che c'è il principio dalla volta scorsa dello Spitzenkandidat, cioè che teoricamente per rafforzare il ruolo del presidente della Commissione e della Commissione tutta si è voluto politicizzarlo, dicendo che quel ruolo va assegnato al candidato della famiglia europea che avesse preso anche un solo voto in più nelle elezioni europee, quindi teoricamente dovrebbe andare a Weber, che è attualmente il capogruppo dei popolari europei tedesco della CSU, e però Macron il giorno dopo al pranzo, diciamo alla cena anzi tra capi di Stato e di Governo a Bruxelles, ha già fatto capire che lui non è d'accordo. L'europeista Macron, attenzione, qui fatemi togliere un sassolino da federalista europea convinta, perché io stessa non è che sia una sodale di Juncker, ma la volta scorsa, rispettando il principio che serve a liberare in qualche modo la Commissione da questo rapporto difficile con il Consiglio e con il Consiglio europeo, che come sapete alla fine prima decideva sempre, no, chi sarebbe stato il Presidente della Commissione, ecco, io ho votato serenamente Juncker come Presidente della Commissione, non ho poi votato la Commissione europea per una serie di questioni, però quello dovrebbe essere un principio non discutibile, invece proprio l'europeista Macron lo sta mettendo in discussione e potremmo avere delle sorprese. Se non succede, quella maggioranza sarà quella che per lo più tiene l'asse nel Parlamento europeo. Vi segnalo un altro dato interessante che bisogna conoscere bene la macchina per avere notato: ci sarebbe anche una maggioranza alternativa che nel nostro lavoro è stata fondamentale in questo mandato. Io mi sono occupata in particolare di alcune riforme su temi molto divisivi come l'asilo e quindi la riforma del regolamento di Dublino. Non sarei mai riuscita a costruire la maggioranza che sono riuscita a costruire se non avessi lavorato, pur non avendo i numeri, con un fronte ecologista e progressista, cioè riunendo le forze dei socialdemocratici, della GUE e dei Verdi, a cui se vogliamo guardare addirittura aggiungendo i liberali, questo fronte arriva a 363 deputati, la maggioranza è 376, vuol dire che basta convincere una quindicina di deputati di altri schieramenti, qualcosa di più perché magari ne perdi qualcuno per strada, però ecco, ci sarebbe anche la possibilità su alcune tematiche, come abbiamo fatto noi, ancora più di prima, di avere degli avanzamenti in un altro senso. Questo bisogna vederlo sui singoli dossier. Noi l'abbiamo fatto sull'Ungheria, che si veniva ricordata prima, cioè sul voto sull'attivazione dell'articolo 7 per constatare delle violazioni sistematiche dei principi fondamentali dell'Unione nel caso dell'Ungheria, dove pure non avendo i numeri abbiamo radunato questo fronte ecologista e progressista che ha talmente spinto che ha trascinato i liberali senza grosse difficoltà su quel tema, ma anche la metà, più della metà dei popolari europei che sono la famiglia politica di Orban. Ecco, e quello ha segnato una spaccatura fondamentale per capire il futuro assetto del Parlamento europeo, in cui una parte dei popolari, lussemburghesi, belgi e altri, stanno contestando la stessa presenza di Orban nella famiglia popolare europea. Quindi ecco, questa è un'altra dinamica che vi segnalo. Non voglio rubarvi troppo tempo, però fatemi dire alcune cose sulla la terza, che è quella popolari e sovranisti. È molto complessa perché i sovranisti, così chiamati, sono molte cose diverse e hanno una innumerevole serie di contraddizioni al loro interno sui temi economici, sui temi migratori, sui temi sociali. E chiaramente è difficile immaginare una maggioranza compatta, però se anche volessimo fare questo esercizio sarebbero 351 la somma del Partito Popolare Europeo, dei conservatori che hanno al loro interno i conservatori inglesi che peraltro sono dei deputati in stand-by perché dipenderà dall'esito della Brexit, e il PiS polacco, che è quel partito di estrema destra nazionalista al governo in Polonia. C'è poi il gruppo EFDD vecchio, che era quello fatto da Farage quindi UKIP e i 5 Stelle e l'Alternative for Deutschland, e c'è l'ENF che è quello di Le Pen, Salvini e altri gruppi del genere. Ecco, però voi capite che è difficile anche immaginare che i conservatori inglesi vadano d'amore d'accordo con UKIP di Farage, quindi è difficile immaginare che quella possa essere una prospettiva, fortunatamente, fatemi aggiungere. Però ecco, questo volevo dirvi. Si è sentito molto una retorica in questi giorni dire abbiamo arrestato l'avanzata sovranista. Ecco, questo è falso, è un'illusione, spesso capita di sentirne nei corridoi di Bruxelles, di narrazioni autoconsolatorie. Non è assolutamente così. I nazionalisti sono il primo partito, ahimè, in Italia, lo sono in Francia, dove superano Macron con la Le Pen, lo sono nel Regno Unito, come dicevamo prima, il PIS polacco fa il 45%, anche se la buona notizia è che la coalizione alternativa di europeisti fa il 38%, quindi comunque in un posto dove i principi fondamentali dello Stato di diritto, compresa l'indipendenza dei media e dei giudici, è messa in discussione, è fondamentale questo segnale di rincorsa, quantomeno. E non dimentichiamo che Orban vince con il 52% dei consensi in Ungheria, quindi altro che aver arrestato l'ondata sovranista, perché questi risultati possono incidere, lo dico da quando dopo la Brexit si votò in Olanda, vi ricordate? E lì c'era un grande timore di un effetto domino e si aspettava che Wilders, il nazionalista olandese, arrivasse al 20%, si è fermato al 13% e tanto è bastato a fare un gigantesco sospiro di sollievo in tutti i corridoi di Bruxelles. Eppure non ci dobbiamo preoccupare solo di quanti percentuali di consensi prendano queste forze, ma di come impattano sul dibattito generale e di come trascinano e spostano il dibattito delle forze immediatamente vicine, come quelle dei moderati popolari. Quindi credo che la partita sia ancora aperta, e chiudo su una considerazione invece molto positiva, che è l'ottimo risultato dei Verdi europei in diversi paesi. Sono il secondo partito in Germania, oggi dai sondaggi addirittura il primo, superando anche la CDU, lo sono in Finlandia, lo sono il terzo in Francia e in Irlanda. Hanno preso molti primi voti anche grazie a questa straordinaria mobilitazione di giovanissime e giovanissimi, insieme a Greta Thunberg, che finalmente richiama la politica tutta all'urgenza di attuare la transizione ecologica indispensabile delle nostre economie. Quindi su questo è quanto per vi direi sul dato europeo. Permettetemi solo un commento finale sull'Italia, perché ancora sull'Europa. Dov'è che vincono i socialisti? E con Peppe questo è un tema di riflessione interessante. Beh, dove fanno i socialisti? Dove cioè rimettono con forza al centro la questione sociale, con i due temi che hanno caratterizzato la campagna spagnola, sulla progressività fiscale e la redistribuzione della ricchezza. Allora, è chiaro che lì diventa effettivamente, no, un risultato significativo di cui tenere conto. E per l'Italia vi direi, il primo dato è lo spostamento a destra, ma fatemi dire anche, poi magari è una mia lettura empirica, ma permettetemela visto che abbiamo ruoli diversi, è incredibile che gli unici due vincitori siano, guarda caso, gli amici di Bannon. Ora, io leggevo oggi che il ministro dell'Interno ha speso 124.000 euro di sponsorizzazioni su Facebook, spesso targetizzate sui più giovani, e anche la Meloni ha fatto lo stesso gioco, nell'ultimo mese. Ora, facciamo una riflessione anche su questo, perché le campagne elettorali sono state molto molto costose e sarebbe anche interessante andare a capire da dove arrivano quelle risorse. Il resto sul voto io do una valutazione, chiaramente, che quel disagio profondo ci esprime da qualche anno, la ricerca di un uomo forte al comando. E guardate, dico una cosa forte, ma non è così diverso, secondo me, se entriamo nella psicologia profonda dell'elettore, da quello che abbiamo visto 5 anni fa, dove c'era, no? Un uomo forte, giovane, al comando, con grande slancio, che prese il 40,8% dei consensi. Cosa mi interessa moltissimo? Lo scollamento tra il voto europeo e quello delle amministrative. Io ho girato moltissimo per la campagna delle amministrative, lunedì chiamavo tutti per dire non prendetevela, è la fase, no? Facciamoci forte. E invece, nell'Emilia Romagna, anche in Veneto, con maggiore difficoltà, ma in Emilia Romagna, le coalizioni di centrosinistra, geometrie un po' variabili, ma con candidati giovani, credibili, tante volte donne, che avevano una coalizione di centrosinistra ampia, dove c'era anche il PD, ma magari spesso anche senza simbolo, dove c'era la Sinistra Unita, dove c'erano gli ecologisti, ecco, hanno vinto quasi tutte. E negli stessi comuni hanno sottratto voti che alle europee sono andati alla Lega. Ecco, questo credo che sia un tema di discussione molto interessante. Io mi fermo qui, poi il resto ci arriviamo magari dopo. Grazie. Sì, vorrei fare a questo punto una domanda a Fabrizio e poi anche a Beppe. Le sinistre in Europa Qualcuno dice che stiamo andando verso l'estinzione. E quindi la domanda che vorrei fare a Fabrizio è quanto pesa quello che sta succedendo nel corpo sociale dell'Europa, l'estinzione della sinistra e anche il sopravanzare dei populismi. E quindi questa è una domanda che poi voglio fare anche a Beppe, pensando anche al Sud. Tanto questa si può stare lontani. Infatti è meglio. Ti rispondo secco e poi motivo. Diciamo, il socialismo si spegne, o l'impostazione di sinistra si spegne, dove i partiti decidono che la soluzione moderata è l'unica alternativa alla dinamica autoritaria. Quindi l'ha detto Eli in una maniera chiarissima, dandoci un respiro europeo che è proprio della sua dimensione, del lavoro straordinario che ha fatto nel Parlamento, che ancora stai facendo, perché sei ancora europarlamentare. Quindi la risposta è molto semplice. La prima delle cose che volevo dire era proprio questa che tu mi sollevi, cioè quello che è interessante è che laddove la risposta, la reazione, il tentativo di reazione alla interpretazione della rabbia, del risentimento del popolo, della gente abbandonata dalle classi dirigenti, laddove questa risposta è stata il moderatismo, le cose sono andate particolarmente male. Laddove la risposta è stata una risposta di speranza, un'opzione di emancipazione, sottolineando aspetti sociali, sottolineando aspetti ambientali, o meglio di tutte, sottolineando insieme, mettendo insieme giustizia ambientale e giustizia sociale, i risultati sono stati interessanti. Lo sono stati in Olanda, dove le cose sono andate meno peggio di come potevano andare, lo sono state in Spagna. Lo sono state laddove i Verdi o i socialisti hanno raccolto consensi significativi. Il consenso raccolto, vengo poi al PD. Quindi credo che sia secco. Interessante è il caso britannico, dove siamo in presenza di un partito, il Partito Laburista, che vive una sofferenza straordinaria. Da un lato è un partito che si sta spingendo con uno sforzo straordinario, coinvolge migliaia di giovani, nuove modalità organizzative, le più simili a quelle sperimentate negli Stati Uniti, nuove riflessioni, nuovo impianto concettuale ricco, che ha noi, come dire, qua in questa fondazione su cui abbiamo ragionato, da un lato, e dall'altro che non è riuscito, non riesce a comprendere, non riesce ad avere il coraggio di comprendere la dimensione di quel paese, la dimensione di quel popolo è una dimensione europea. Questa contraddizione drammatica fra questi due aspetti del Partito Laburista lo ha condannato a un suicidio elettorale, in questa peraltro grottesca puntata elettorale, ma lo ha condannato al ridicolo della vicenda parlamentare britannica, che rappresenta una delle vicende più drammatiche della storia delle democrazie moderne. Un gruppo di persone incapace di maturare una decisione, incapace di avvertirne la drammaticità, incapace di rappresentare il senso del popolo. Quindi io penso che ognuno in un contesto, ricordiamocelo, occidentale, che ha degli elementi di similitudine che oggi sono superiori agli elementi di differenza, poi ci vengo tra un istante, e sono gli elementi di un trentennio di politiche che hanno accresciuto le ingiustizie sociali e hanno prodotto quello che sta avvenendo, le differenze significative con cui tu hai iniziato sono legate essenzialmente non alla forza di coloro che cavalcano la dinamica autoritaria. Io preferisco chiamarla così, sovranismo, nazionalismo, populismo, non riesco hanno significati che usati in diverse idiologie, la chiamo dinamica autoritaria, una via di uscita autoritaria. In modalità e forme diverse, con tentazioni diverse, non dipende da loro, dipende dall'opposizione che hanno trovato. In Italia questa opposizione è stata un'opposizione modesta per il massimalismo delle organizzazioni che sono e delle forze che sono la sinistra del Partito Democratico, si chiamava così un tempo, e per il moderatismo, la paralisi, l'autolesionismo del Partito Democratico, il quale non ha avuto la forza, nonostante sollecitato in tutti i modi, di fare della forza sua, che era di appartenenza all'unico gruppo, al più forte gruppo parlamentare, che tra l'altro aveva vissuto nell'ultimo periodo una fase anche culturalmente significativa di rete, di rapporti, di successi, di risultati e anche lasciatemelo dire, di analitica, visto che quel gruppo aveva avuto il coraggio di tirar fuori un documento che si chiama Uguaglianza Sostenibile, a cui ho avuto l'onore di partecipare insieme a tanti altri, la cui forza, al di là del nostro contributo tecnico che non è stato rilevante, bla bla bla, la vera forza era politica, perché era il coraggio di un gruppo parlamentare che diceva: abbiamo sbagliato, abbiamo commesso per 30 anni degli errori, cioè un'autocritica da parte, cioè laddove non c'è stata un'autocritica da parte di molti partiti, certo non l'ho vista nel Partito Democratico, questa autocritica è venuta dal gruppo socialdemocratico europeo, che ha riconosciuto i gravi errori compiuti in questo trentennio. Eppure questa roba non è stata utilizzata affatto all'interno della battaglia. Ha pagato il fatto di aver messo il simbolo europeo, come i liberal democratici in Gran Bretagna ha pagato a loro, assurdamente non i laburisti, la gente ha votato il partito, perché hanno votato i liberali in Gran Bretagna? Perché l'unico modo di votare contro Brexit era votare per loro, certo non era, visto che l'elezione era europea, quindi la mossa sicuramente corretta del Partito Democratico è stata di dire: siamo per l'Europa, per quale Europa? Il Partito Democratico fosse non era mai stato chiaro. Sì, un'Europa un po' diversa, non l'Europa di ieri, non solo quella della. Quindi direi un risultato ragionevole quello che c'è stato, un risultato temporaneo. Non penso che il Partito Democratico possa immaginare che i voti che ha ricevuto siano definitivi, sono voti dati, come non penso che il Partito Liberale in Gran Bretagna possa pensare che i voti che ha ricevuto non ritornino al Partito Laburista appena si va alle elezioni europee. Mi auguro che il Partito Democratico non abbia questa tentazione di pensare che quei voti sono voti in libera uscita, o dall'astensione, o dal Movimento 5 Stelle, o da altre formazioni anche di sinistra. Viceversa, la Lega da questo punto di vista ha incassato esattamente come l'avete detta voi, cioè ha incassato la chiarezza del messaggio sull'Europa, raccontando una balla tipo: se vincono i cosi non pagheremo l'IVA, una serie di balle, perché è ovvio che non solo perché i nazionalismi sono nazionalismi, ma anche perché il fronte che comunque ha vinto è un fronte moderato, è un fronte che pretenderà da noi quanto hanno preteso tutti fino all'altro ieri, quindi diciamo raccontando balle alla gente, però ha raccontato una balla consistente, e quindi, come dire, l'antisistema, il voto antisistema si è spostato rompendo la diga dei 5 Stelle e diventando verso quello che era dichiaratamente antisistema, cioè a questo punto se devo votare per qualcuno voto per i due che hanno vinto. Rimane però, lasciatemi dire, poi aggiungo due cose sull'aspetto territoriale, rimane però una fragilità, perché quando vincono, come fu fragile la vittoria di Renzi, è fragile anche la vittoria della Lega. Ricordiamoci che la Lega tiene insieme in questo momento due pezzi, se non tre pezzi, diciamo due pezzi, per farla rapida, un pezzo territoriale che è la sua origine, che sta nei distretti industriali, che sta nella parte forte del paese, che crede nei territori, che non è particolarmente fascista nelle sue impostazioni, che non è centralista, che non ritiene che il problema fondamentale sia quello della sicurezza, che vede i migranti come una fonte fondamentale di lavoro, perché sennò non riescono a capire come tirano avanti i campi o le fabbriche, e invece una componente nazionale. Questa componente nazionale fascistica gli ha dato a questi lo spazio. Io conosco sindaci che sono diventati sindaci facendo cose dignitose, che non erano riuscite a diventarlo con le elezioni civiche di sinistra, lo sono diventate con la Lega, quindi c'è una cosa che è il ritorno, specialmente all'Italia, c'è l'idea grazie a loro, però non consideriamo neanche quel voto, quella capacità di tenere insieme questi due pezzi, una capacità acquisita. Sarebbe perché non quadrano quei due modi quando si tratta poi di esercitare la funzione di governo. Una battuta sulla interna di tipo territoriale, poi una battuta solo sul sud, così alzo una palla a Peppe, vediamo che di sud è molto più esperto ormai. Io ormai ho deciso di sud e non ho occupato già abbastanza nella mia vita. Esiste un aspetto interessante che va corretto. Nelle settimane scorse abbiamo letto molto sulla base dei dati, quindi poi vorrei sentire voi su questo. Abbiamo letto molto di campagna verso città, è una lettura superficiale. che deriva dall'avere preso i numeri delle città e di averli contrapposti ai numeri medi della regione. Se vogliamo dare una lettura territoriale dobbiamo essere un pochino più sofisticati. Esiste un tema interessante ed importante per cui la lettura del dato territoriale, indipendentemente da sud e nord, è interessante, su cui si lavora da 5-6 anni, su cui ci sta anche una letteratura e i risultati interessanti, ne richiamo due tra un istante, che dice che i territori che votano antisistema sono territori che si sentono abbandonati, sono territori che percepiscono e hanno elementi significativi per ritenere che le classi dirigenti non si occupino di questi territori. Allora è interessante comprendere in che misura questo voto confermi questo. Apparentemente lo è, però la lettura deve essere più sofisticata. Allora è periferie urbane versus centri urbani, è campagne deindustrializzate verso campagne che hanno retto, sono aree interne dove è iniziato un processo di rinnovamento contro, e poi faccio un esempio, contro aree interne, cioè aree montane, rurali, remote, che non hanno iniziato un processo di rinnovamento. Andiamole a guardare con un pizzico più di attenzione, forse potremmo trovare delle cose interessanti. I numeri, la tornata precedente, quella delle europee precedenti, che è stata oggetto di raffinato studio da parte di questo studioso e amico con cui da anni lavoriamo su queste cose, Andrés Rodríguez Pose, spagnolo, che era ancora a Roma l'altro giorno, ci ha raccontato i suoi risultati, che ha analizzato 60.000 distretti industriali, ha trovato un risultato interessante, che il voto antisistema, dove antisistema nel caso italiano vuol dire massimo antisistema Lega, antisistema più moderata 5 Stelle, quindi antisistema per l'Italia erano entrambi, ha fatto una classificazione degli antisistema. Il voto antisistema non è correlato assolutamente con i flussi migratori, questo è un risultato che torna e torna e torna e ritorna, non è con la densità, con l'intensità di migrazione. Non è, e questa è già più interessante, meno ovvia, appena si va a fare un po' di analisi, non è legato con il tasso di istruzione. Quindi la pianti la sinistra intellettuale, la pianti di trattare chi ha votato Lega o 5 Stelle come dei minus abs e degli ignoranti, perché i votanti, come ha già anticipato Eli, e lo si vede nel voto differenziato a Menino, che non vuol dire che sia contento di uno che ha votato Lega, però come dire, ha votato Lega perché sa esattamente cosa. Il tema non è se ha votato bene o male, il tema è di capire se è consapevole del voto che ha dato. Perché noi quando cominciamo a dire che la gente vota perché non è istruita, poi finiamo a dire che non ci vuole più voto universale, cosa che abbiamo sentito spesso negli ultimi 4-5 anni da parte di chiunque. Quindi non è legata con il tasso di istruzione, non è legato con il reddito, i divari di reddito pro capite statici, cioè i più poveri non votano necessariamente più antisistema. È legato nelle sue forme estreme, qua interessante, con la ruralità, con la lontananza dai luoghi, cioè con le cose su cui abbiamo lavorato in Italia noi sulle aree interne, cioè più tu sei lontano dai grandi centri, più ti senti sfigato e abbandonato da Dio, in un mondo in cui abbiamo inventato la metrofilia, cioè ci siamo riempiti la bocca del fatto che l'unico destino dell'umanità era quello di vivere nelle città, non è sorprendente che chi vive in quei territori si senta abbandonato, sia dalla classe dirigente finanziaria di destra, sia dalla classe dirigente culturale di sinistra, che comunque insieme hanno detto Floridia, le città sono l'unico posto dove ha senso vivere, voi che vivete in altri posti siete sfigati, quindi ci sta questo risultato. Ma il risultato più amante di tutte, che sarebbe interessante andare a mettere alla prova di questo risultato elettorale, quindi sarà interessante, magari, che ne so, fate un'operazione insieme rapida con Andrés e voi del Cattaneo, sarebbe interessante saperlo non tra 2 anni, hanno scoperto che la correlazione forte è con il declino di lungo periodo. Ora, un economista come Andrés Rodríguez Pose non ha le cose raffinate che ci piacerebbero a me, a Eli e a Peppe Provenzano, cioè provare a misurare anche altra roba che misura la sfigataggine, cioè la difficoltà di accesso ai servizi fondamentali, la paura che ti mettano troppi ticket, il problema dell'istruzione dei tuoi figli che è peggiore di quell'altro perché la scuola che c'hai vicino fa schifo, cioè gli altri fattori di disuguaglianza sociale o quelli che chiamiamo disuguaglianze di riconoscimento. Non stai ancora necessariamente peggio sui servizi, non hai non ti sta andando peggio il reddito, ma hai la sensazione che nessuno ti fili, che è il problema ad esempio della classe operaia di questo paese. Chi si fila più un operaio del settore manifatturiero? Quando mai è al centro del dibattito pubblico? Allora, lui misura di questa roba una sola cosa, se c'è stato un long term economic decline, che per un economista è quello che riesce a fare, cioè vede se per un lungo periodo le cose sono andate peggio, che generalmente è il risultato del fatto che non si fila più nessuno, cioè che le politiche sono sbagliate, e lì la correlazione è fortissima, cioè detto in altri termini, alle europee precedenti il voto antisistema era un voto che si era concentrato non in chi stava peggio, ma chi stava peggiorando. Il che consente di rispondere a chi in Italia ha detto: ma come mai voi che dite città campagna? Certo, perché era stata scritta male quella roba. Perché anche nei distretti industriali votano Lega? Ma certo, perché i distretti industriali stanno molto meglio delle altre aree del paese. Ma come stanno andando i distretti industriali da 20 anni a questa parte, da 25 anni a questa parte? Quanti posti dell'Emilia Romagna, il Veneto e la Lombardia, cioè il cuore del nostro sistema economico industriale, hanno perso nella graduatoria delle regioni europee? Quello è il tema vero. Il sud sta allo stesso livello rispetto al centro-nord a cui stava 20 anni fa, 25 anni fa. Il tema nuovo dell'Italia è che sono crollati questi comparti. Reggono, esportano ancora, vanno ancora bene, ma sono crollati, non andati male, sono crollati. Cioè un operaio vede il proprio reddito rispetto a un operaio tedesco, rispetto a un operaio olandese, rispetto a un operaio perfino francese, che è proprio considerato la Francia un povero paese manifatturiero rispetto a noi, vede quel stipendio crescere e il suo non crescere da 25 anni. Quindi la situazione relativa del nostro sistema del nostro sistema industriale, della parte forte, è di declino economico relativo. Quindi sono incazzati quanto lo sono quelli, il tema non è quanto stanno male, ma quanto stanno rispetto a ciò che c'erano attesi e che avevano raccontato ai propri figli che sarebbero stati. Chiudo questa roba dicendo due sole affermazioni. Uno, un piccolo riscontro di tipo occasionale. Nelle montagne dell'Emilia Romagna è arrivato questo sindaco, il sindaco Boni, che è di un posto che sta proprio a 1500 metri, vicino a Ligonchio, che per quelli di noi che hanno una certa età è un posto importante, perché c'era Iva Zanicchi. E quindi significativo, in quel territorio quelli hanno votato, si sono spostati sulla Lega in maniera significativa, non si sono spostati sulla Lega sulle amministrative. Perché? Perché il gruppo dirigente del PD e civico di sinistra di quel territorio sta facendo della roba molto interessante, devo dire con mia grande felicità, grazie alla strategia aria interna, stanno cambiando il sistema della salute e dell'istruzione, e c'hai degli spostamenti di voto che a livello locale fanno una certa impressione, perché li vedi 1.500 voti. Cioè non è che stiamo parlando di una roba piccola, il che dimostra che quella gente può aver sbagliato, ma ha votato sapendo esattamente che cosa stava facendo, così come ha fatto esattamente cosa stava facendo il cittadino del sud, il quale che aveva votato 5 Stelle nel convincimento che stesse votando un partito che affrontava finalmente la povertà sull'onda di quello, l'unica cosa, la cosa più importante che ha fatto il PD nelle precedenti cose, cioè quelle dell'introduzione del reddito di inclusione, si è ritrovato con un pastrocchio che aumentava la quantità di soldi, ma con quella trappolone, col trappolaro di Salvini che ha fatto raccontare a Di Maio che quella roba serviva per creare lavoro. Allora il cittadino del sud sa che il trasferimento di 500 euro non serve per creare lavoro, quindi attenzione. Come dire, si paga tutto. Quando Salvini vince e convince Di Maio a vendere il reddito di cittadinanza come una roba che produce lavoro, gli sta tirando una trappola di proporzioni granate, e se notate Salvini non promette mai niente, perché lui costruisce dei mostri e dice che li distrugge, ma perché i mostri non ci sono, quando poi non ci sono più lui dice che li ha distrutti lui, perché una larga parte dell'attività salviniana è quella di raccontare dei mostri. Non è che promette miglioramento della... Avete mai sentito Salvini che promette miglioramento della salute? Avete mai sentito Salvini che promette un miglioramento delle condizioni della scuola? Avete mai sentito Salvini che promette che la mobilità nei territori delle periferie sia migliorata? Non gli scappa mai, perché sa che non lo potrà fare, perché con l'amministrazione pubblica che ha, con l'assenza di classe dirigente che ha, non lo potrà mai fare. Lo dico perché questo ci dice che c'è una pianura per i partiti che avessero da contrapporre a quel disegno povero, meschino, un disegno diverso, in un paese che dopo tutto appare, a mio parere, ancora saggio. Il tema potrebbe essere appunto, il tema per la prossima domanda potrebbe essere: perché non c'è questo disegno? Perché, però volevo aggiungere a questo, allora, tutto questo non si può chiamare come il voto dei perdenti della globalizzazione, come, cioè questo discorso del declino è quindi una reazione di quelli che, vabbè, sono stati chiamati i perdenti della globalizzazione, no? E quindi in questo senso si spiega sia al nord che al sud dell'Italia, o come un voto, il voto della paura, il voto dell'incertezza, però a cui aggiungerei un altro elemento, che in fondo è sottotraccia in quello che hai detto, la mobilità sociale, cioè le diseguaglianze in Italia non sono solo le diseguaglianze economiche di reddito, ma c'è questa immobilità sociale che ormai, quindi non è tanto che ormai è una cosa che va avanti da più di due decenni, sono ormai una generazione che si trova in una condizione peggiore di quella dei genitori. Allora, è stato, va bene, non è solo semplicemente la questione dell'istruzione o della, però è vero che sono le classi popolari, i figli dei non laureati che si sono sentiti emarginati, che sono stati marginalizzati, che non hanno prospettive, quindi, e che, vabbè, che possiamo dire rientrano nella categoria dei perdenti della globalizzazione, ma anche se non lo sono, hanno l'orizzonte bloccato e quindi si rivolgono dove gli viene offerto questo disegno, che non è un disegno, che è quello di Salvini. Allora vorrei chiedere a Peppe, perché non c'è questo disegno? Perché la sinistra si è persa per strada? Cioè, dov'è? Allora, tu hai parlato della scintilla, no? Domanda da poco, ma questo mi consente di parlare non a nome della Svimez, ma da militante politico, che è quello che avrei voluto fare. Scusatemi se lo faccio a voce bassa, ma ho un mal di gola, però il debito di riconoscenza che ho verso l'Istituto Cattaneo mi porta qui, e anche qualche altro debito, è capitato altre volte di saltare incontri. No, vabbè, provo a dire un po' di cose anche sulla base del dibattito che c'è stato prima. La prossima volta non invitate Barca, Eli e me, la pensiamo praticamente allo stesso modo su tutto, quindi insomma, però mi fa molto piacere. Vabbè, lo diceva Marco all'inizio, l'Italia si è spostata a destra come mai era accaduto nella storia, però noi questa cosa mai accaduto nella storia la ripetiamo spesso per moltissime cose, per dire non era mai accaduto nella storia che l'SPD, il partito forse più antico che esista al mondo, abbia avuto un risultato che, diciamo, inferiore solo ce l'ha avuto nell'epoca del nazismo. Le forze di sinistra e democratiche in Italia era accaduto l'anno scorso, nel 2018, perché avevano avuto un risultato peggiore solo sotto il fascismo. Noi siamo dentro una curvatura politica mondiale. Donald Sassoon, questo storico britannico affezionato dell'Italia, ha parlato di sintomi morbosi citando Gramsci e raccontandoci come in realtà non è vero che mai è accaduto nella storia, e soprattutto che non è un problema solo dell'Europa e dell'Occidente, perché lui dice: i sintomi morbosi affollano l'Europa, ma non è che in giro per il mondo vada molto meglio. Noi, non era mai accaduto nella storia che il principale nemico dell'Europa fosse il Presidente degli Stati Uniti in America. Certo che però l'accentuazione di questa curvatura nel nostro paese fa impressione. Se qualcuno pensava che la rabbia che c'era, il risentimento, le cose di cui ha parlato Fabrizio, che c'era l'anno scorso, si fosse sfogata con quel voto del 2018, invece non è stato così. Oggi ha avuto nuove ragioni di rabbia e nuove bandiere a cui affidarla. I 5 Stelle l'avevano raccolta l'anno scorso e l'hanno consegnata alla destra, la destra più nera, che è quella di Salvini. E questo ci dice anche un'altra cosa, che quando ci si presenta come né destra né di sinistra, molto spesso poi si finisce per collassare sempre a destra. È stato un suicidio politico per il Movimento 5 Stelle, perché l'entità della sconfitta è veramente, forse solo il PD di Renzi ha fatto peggio, no, nemmeno. Però, come dire, le conseguenze politiche sono evidenti, sono la cronaca di questi giorni. Vabbè, se parliamo dell'Italia, è anche per parlare dell'Europa, perché noi abbiamo un dettaglio non da poco: un vice premier attualmente in carica, che è Salvini, che è il riferimento dell'estrema destra europea. Un tempo lo chiamavamo Lepeniano, e invece non è più la Le Pen, il riferimento dell'estrema destra europea è Salvini, e questa è una cosa non da poco. Ma anche nella geopolitica mondiale l'Italia era, diciamo, il grimaldello con cui si è tentato di far saltare il più possibile la costruzione europea. su questo non ci siamo riusciti. Io sono d'accordo con Elli, il pericolo non è scampato, però ad oggi non ci sono riusciti. E allora, per dire proprio due cose sulle prospettive dell'Europa, io penso che il titolo del nostro, ci appassiona l'Italia ovviamente, ma il titolo del nostro incontro, io credo che dopo queste elezioni i nodi irrisolti di un'architettura europea che non fa altro che nutrire gli stessi rischi che vorrebbe fronteggiare sono tutti ancora lì. Il direttore del Mulino, in una semplificazione che come tutte le semplificazioni è appunto semplificatoria, ma comunque suggestiva, efficace, ci ha fatto questo quadro. Nella dimensione europea noi abbiamo le politiche senza la politica e nella dimensione nazionale è rimasta la politica senza le politiche. Queste due cose creano un cortocircuito non da poco, perché se tu hai le politiche ma non hai la politica, al di là diciamo del fatto che in questa legislatura tra i socialisti europei è iniziato un ripensamento profondo, ma finisce per annacquarsi la distinzione sul piano europeo tra destra e sinistra. E a livello nazionale, se hai la politica ma non hai le politiche, beh, forse la vera radice dell'antipolitica sta lì, e di chi di volta in volta è chiamato a rappresentarla, l'antipolitica, l'antisistema, nelle forme che questo può prendere, anche autoritarie come stiamo vedendo adesso, perché se le scelte le sono prese altrove, se c'è il pilota automatico, beh, allora la politica a cosa serve? E questo io lo dico perché diciamo in questa architettura dell'Europa ci sono le ragioni per cui noi abbiamo assistito in questi anni alla grave mistificazione del derby tra sovranisti e europeisti che ci hanno raccontato a queste elezioni. Perché abbiamo un Consiglio d'Europa che è la Camera di compensazione degli interessi nazionali, diciamoci la verità, perché poi si va presto a parlare d'Europa, ma l'Europa sono molte cose diverse, un conto è il Parlamento Europeo, un conto è il Consiglio. Fa da Camera di compensazione come una volta lo facevano le guerre, e solo diciamo, i fiumi di retorica europeista che hanno accompagnato il discorso sull'Europa in Italia ci fanno perdere di vista quanto invece il gioco degli interessi nazionali sia ancora forte, senza considerare il fatto che appunto le elite politiche europee in questi anni hanno sempre fatto prevalere interessi nazionali, mi verrebbe da dire sovranisti, persino i campioni dell'europeismo, dalla Merkel di fronte alla vicenda greca a Macron alle frontiere. Io vedo un rischio molto forte perché Elli diceva la coalizione socialisti, liberali e popolari è l'unica maggioranza possibile. E beh, questo non fa altro che aggravare nuovamente quel rischio. Anche qui è un problema di architettura, perché noi sappiamo benissimo che la Commissione è nominata dai governi, quindi difficilmente, anzi è praticamente impossibile nella costruzione europea che si formi una commissione politica con un voto politico, ma se questa è l'unica maggioranza possibile anche questo è un elemento. Eppure malgrado tutto questo, a proposito dei disegni, io penso che non bisogna rassegnarsi alla, tu dicevi, all'estinzione, alla fine della distinzione tra destra e sinistra. Io non penso che bisogna rassegnarsi in Italia, figurarsi in Europa, non solo per il piccolo particolare che la destra esiste, ed esiste una destra che noi credevamo scomparsa sotto le macerie del secolo scorso, ma diciamo anche dichiarare la morte del socialismo democratico mi sembra una notizia fortemente esagerata. Voi avete già ricordato la Spagna, il Portogallo, ma io vorrei dire la sinistra di governo anche in Grecia, malgrado l'arretramento importante che ho avuto con quello che è accaduto in Grecia, ancora regge. Ecco, allora, sempre per provare a mettere un elemento, non dico di ottimismo, ma almeno di possibilità di costruzione di una via, io penso che il crollo dell'SPD, che è stata consumata dalle grandi coalizioni in cui la Merkel a volte faceva la parte della sinistra su alcuni temi, e che porta il peso di responsabilità drammatiche, intendo l'SPD, sulle riforme per esempio economiche e sociali dell'Europa e dell'Eurozona in particolare, consegna una responsabilità e anche un'opportunità alle sinistre dell'Europa del Mediterraneo. L'Europa e il Mediterraneo non conta niente, la crisi l'ha massacrata, ma le sinistre dell'Europa e del Mediterraneo, in un'Europa in cui bisogna ripoliticizzare il discorso, far tornare la politica ma senza dimenticare la geografia, che è un elemento imprescindibile del discorso sull'Europa, hanno il dovere di avanzare delle proposte. Non dico l'agenda di Barca sull'uguaglianza sostenibile, sarebbe una mezza rivoluzione, ma almeno tre cose fondamentali: riforma dell'Eurozona e costruzione del pilastro sociale, riforma di Dublino, le cose su cui ha lavorato Elly, e gestione dei migranti, e una politica diversa per il Mediterraneo e per la frontiera sud. Perché questo, diciamo, è se noi anche come sinistra italiana, adesso ci torno meglio per evitare equivoci su questo termine, se noi stiamo lì avremmo non solo fatto una cosa giusta per l'Europa, ma anche corrisposto a un interesse nazionale, che tanto sbandierato da Salvini invece con l'Europa di Visegrad è l'esatto opposto. Quindi questa Europa mediterranea deve chiedere a Francia e Germania, alla Francia di Macron, ai liberali che cominciano a porsi, a me pare, anche rispetto agli anni più feroci dell'austerità, il tema della protezione sociale. Beh, Macron dopo i gilet gialli ha cominciato a rivedere alcune, per forza di cose, più per convenienza che per convinzione forse, ma alcune sue posizioni politiche, e anche e bisogna dire loro di scegliere. In questo secondo me è il compito nostro. Noi ne abbiamo più bisogno più degli altri, credo, perché come abbiamo visto dall'Italia e dal Sud in particolare questa Europa pare lontanissima, non è emerso molto, però a me è impressionato questo dato sull'astensionismo in Italia, che è in controtendenza rispetto alla maggior parte dei paesi europei, dove diciamo, la crescita del voto alle elezioni europee è stata molto molto diffusa. Al sud vota quasi ovunque meno del 50% della popolazione, in Sicilia ha votato appena il 37% degli aventi diritto. E questo forse è anche un elemento un po' più strutturale, che insieme a quello cioè un elemento che diventa quasi strutturale insieme a quello della mobilità del voto, bisognerebbe cominciare a farci i conti, perché la destra mi pare che ce li ha fatti. Da questo punto di vista le analisi dell'Istituto Cattaneo ci dicono tantissime cose. Marco Albruzzi, quando il PD fece il 41%, disse: ma guardate che non ha preso tutti questi voti a destra. Cioè innanzitutto bisogna sapere mobilitare i propri elettori, non lasciare i propri elettori nell'astensionismo, e forse provare a, appunto, tu dicevi una proposta, cioè la destra ha fatto quella proposta di sistema, un'operazione egemonica, mi verrebbe da dire, appunto, un messaggio fortemente radicalizzato, ma che viene posto anche in termini poco ideologici. Salvini dice le cose più destra, più terribili che noi possiamo ascoltare, dicendo sempre: questo è buonsenso, cioè lasciamo morire la gente di mare, ma questo mica è la destra più nera, questo è buonsenso. Cioè c'è una negazione dell'elemento ideologico, a differenza forse in questo di Fratelli d'Italia, dove invece quelle stesse ricette, perché sono sostanzialmente identiche, sono accompagnate invece con un elemento di ideologico molto, molto forte. E questa operazione egemonica arriva dove non te l'aspetti, arriva nelle regioni rosse, arriva in ceti sociali deboli penalizzati dalle politiche che vengono proposte, arriva al sud. E così può accadere quello che dicevate voi: nello stesso giorno, nella stessa urna elettorale, l'elettore vota per la Lega e per Gori a Bergamo, per il Movimento 5 Stelle e per il sindaco di Bari al sud. Qualcuno ha detto: sono irrazionali. Beh, dovrebbe essere irrazionale due volte, cioè se è nello stesso giorno. No, la verità è che scelgono, come dicevate voi, e questo è un elemento secondo me decisivo che dobbiamo capire: scelgono leader, messaggi, mandano messaggi. Da militante parlo del PD dicendo che il PD è in campo. tu hai ricordato questa persino una leggera avanzata in termini assoluti rispetto a quanto si è detto all'inizio. Anche la base, si è detto pure che il voto al PD era sostanzialmente lo stesso del 2018, in realtà c'è anche una modifica della base elettorale, ci sono stati voti in entrata da Liberi Uguali e dal Movimento 5 Stelle, e a dirla tutta non venivamo nemmeno dal 18,7%, venivamo da molto sotto il 18,7%. Io vi invito a guardare i sondaggi dello scorso anno, dove il PD, che non solo aveva perso, ma dopo che aveva perso aveva fatto molto peggio, era caduto a percentuali che i sondaggi rilevavano intorno al 13 in alcuni momenti, eccetera. Quindi il rischio era l'irrilevanza politica del Partito Democratico. Oggi invece il Partito Democratico, insieme ad altre forze alla sua destra e alla sua sinistra che si oppongono comunque al governo giallo-verde, affermano una certa rilevanza dell'opposizione. Questo ci deve fare festeggiare? No, perché evidentemente i nodi strutturali di crisi del Partito Democratico che avevamo visto, denunciato lo scorso anno, sono tutti lì. Non torno sulle cose che diceva Fabrizio sulla contrapposizione tra città, centro e periferia, città aree interne, sulla vendetta dei luoghi che non contano, no? Come dice Rodriguez Pose, perché questo secondo me è una chiave di lettura decisiva. E il tema è che se diventi una forza di città, e devi sapere che l'Italia è un paese fatto di province, ed è la provincia periferica d'Europa per eccellenza, che è il Mezzogiorno. Qualcuno continua a dire ogni volta che si vince, si perde, si vanno bene, vanno male le elezioni, c'è un riflesso condizionato da parte di gruppi dirigenti, quelli specialmente che si sono formati negli anni 90, che dicono andiamo verso il centro. Al centro noi ci siamo già, siamo proprio lì, cioè. Il problema è proprio questo, è che tra quel centro e il resto si è scavato un fossato. Vedete, noi abbiamo vissuto gli ultimi anni con una retorica anche bella, interessante, figurarsi il modello Milano, il modello delle città. La verità è che non esistono modelli, e questo ce lo dobbiamo dire con grande onestà. Perché primo, perché quella concentrazione dello sviluppo, delle opportunità, non diventa mai diffusione. Perché non so, avevo visto Walter Tocci, con cui ne abbiamo parlato, all'interno delle se n'è andato nel momento in cui gli volevo dire una cosa buona, vabbè, gliela dite voi, ma all'interno delle città nascono molto spesso le contraddizioni dello sviluppo, e dunque le nuove idee, forme di reazione, anche persino a Roma, penso al terzo municipio, eccetera, ma nemmeno queste riescono a attraversare quel fossato. Quindi quando ti dicono anche nel Partito Democratico ripartiamo dalle città, va bene, ripartiamo dalle città a patto che la direzione è provare a uscire fuori da queste città. In questo senso io credo che il voto del Mezzogiorno non sia qualcosa di distinto. Non è qualcosa di diverso il voto che c'è stato al sud rispetto alla dinamica nazionale, se è questa la lettura fondamentale, che è quella che ha detto Fabrizio. Io aggiungo una suggestione: ogni volta noi ci diciamo che la geografia elettorale si sovrappone completamente alla geografia delle disuguaglianze, anche questa è un'approssimazione. Più che la disuguaglianza è la divergenza, secondo me, il tema, e la divergenza tu ce l'hai dal sud verso il centro-nord, ma ce l'hai molto di più nelle regioni del centro-nord rispetto al core dell'Europa, e questo non è, la divergenza ce la puoi avere sia quando cresci sia quando cadi in una spirale negativa come questa. Il voto del Mezzogiorno racconta questa storia qui. Sulla penetrazione della Lega, secondo me dobbiamo dirci però una verità fino in fondo: la Lega ha offerto una nuova bandiera alla destra meridionale, alla destra profonda che sempre c'è stata nel Mezzogiorno, al notabilato di paese che molto spesso c'è, a quei trasformisti che sempre conosciamo. Io non mi stanco mai di ripetere che diciamo anche al cuore di tenebra del Mezzogiorno, perché il programma energetico della Lega Nord è stato scritto da un signore che è in affari con un fiancheggiatore di Matteo Messina Denaro. noi ci hanno raccontato il caso Siri dicendo che era un problema di tangenti, di avvisi di garanzia, e noi tutti scemi a dire che si doveva dimettere, che c'era l'avviso di garanzia. Il problema è politico, cioè che tipo di interessi questa nuova Lega che penetra nel Mezzogiorno rappresenta. E non è un caso che sul tema dell'antimafia questa Lega non dice niente al sud, ma non dice niente nemmeno nel centro-nord. Questo è un tema molto enorme. Vabbè, sul Movimento 5 Stelle l'Istituto Cattaneo ci dice una cosa enorme, che cresce il disincanto per il Movimento 5 Stelle da parte del sud, ma allo stesso tempo il Movimento 5 Stelle, se non vuole sparire completamente, è costretto a rappresentare gli interessi del Mezzogiorno. Questo si scontra con tutte le linee politiche fondamentali di questo governo, dalla flat tax all'autonomia differenziata, al taglio ai servizi e agli investimenti pubblici. Tutto questo è a danno del Mezzogiorno. Io non so come risolveranno questo paradosso, più probabilmente non lo risolveranno e andranno ancora di più nella loro spirale autodistruttiva. Come mai tutto questo non arriva a noi? Questo è il tema, secondo me, importante, decisivo del Mezzogiorno. E io credo, guarda, io ho passato gli ultimi anni a provare a dire come il problema del Mezzogiorno non sia solo un tema di classi dirigenti, che ci sia un problema di visione politica nazionale, di politica nazionale, e però, porca miseria, è anche un tema di classi dirigenti, cioè nel Mezzogiorno le forze, il centrosinistra aveva preso tutte le regioni e adesso ha percentuali che molto spesso sono inferiori alle due cifre. Questo è un tema decisivo, secondo me, nella discussione sul Mezzogiorno. È l'unica possibilità per provare a recuperare un pezzo di dialogo con la società meridionale, è quello di operare un profondo rinnovamento nelle forze di sinistra meridionali. Quel notabilato meridionale esclude molto più di quanto includa, e questo non ti consente di parlare solo ai giovani che non ci sono più, ma ti consente di parlare a quelle madri e a quei padri che magari hanno passato il loro tempo nelle anticamere del notabile di turno a cercare una prospettiva per il proprio figlio e hanno visto invece il figlio emigrare, il paese spopolarsi. Ora è vero che non c'è un legame, come dice Fabrizio, con l'immigrazione, però io la farei una bella mappa dello spopolamento, non del voto alla Lega o al Movimento 5 Stelle, ma delle percentuali a una cifra del Partito Democratico. Perché quella, secondo me, ha un livello di sovrapposizione molto molto alta. Volevo dire un'ultima cosa sul voto ai giovani. Faccio una cosa antipatica, che è citare un altro istituto di ricerca, che è ICSE, e che ci ha detto che nella fascia tra 25 e 34 anni il Partito Democratico è al 16%, la media nazionale è il 22%, dico 23% perché dai... come incoraggiamento, e addirittura tra i 35 e i 44 anni è al 13%. Ecco, quelle sono le generazioni, cioè non è solo un problema di uomini, sono le generazioni ferite dalle politiche degli anni 90 e degli anni 2000. Noi prima li avevamo contrapposti ai padri, i padri famosi con l'articolo 18 eccetera. Ai padri abbiamo finito per non riconoscerli, per negargli persino la dignità, Marchionne più meglio dei sindacalisti, l'articolo 18, persino al di là del merito dell'articolo 18, ma per la carica ideologica con cui è stato accompagnato. Ai figli abbiamo fatto peggio, gli abbiamo rovinato la vita. Gli abbiamo rovinato la vita precarizzandola, abbiamo rovinato la vita senza... Quella è la generazione senza lavoro, la generazione che per esempio dal Mezzogiorno se n'è andata e che non torna nemmeno a votare. E attenzione, questa è una cosa veramente interessante, quella è anche la generazione più scolarizzata della storia del paese, altro che, cioè non è la Vandea che non ci vota, sono i giovani più scolarizzati che sono quelli a cui hai fatto male. Quindi il tema non è solo dei politici, ma il tema è anche della politica. Vabbè, io volevo dire che questo voto ci consegna l'opposizione, ma non un'alternativa. L'alternativa non si costruisce, secondo me, con una discussione sulle alleanze. Io penso che chi pone il problema del centro ponga un tema politico in Italia, perché in Italia ha perso il centro e sarebbe importante che ci fosse una forza a presidiare quel centro per evitare che vada completamente a destra. Suggerirlo al Partito Democratico è un suicidio per una forza che dovrebbe essere di centrosinistra, proprio perché quel centro è esiguo e non lo può fare, secondo me, né il PD, a meno che di suicidarsi, tantomeno lo spin-off del PD, perché questa cosa non aggiungerebbe niente, ma lì c'è bisogno di qualcosa che nasca nella società. Però l'alternativa la costruisci con una svolta sociale che affronti il mare aperto dell'astensione. Io penso che lì noi dobbiamo tornare a guardare. Fabrizio ha detto delle cose critiche nei confronti del Partito Democratico, che in parte condivido, ma vorrei precisare quello che penso, diciamo, rispetto a questa campagna elettorale. Io penso che fosse tutto sommato inevitabile arrivarci così se hai passato un anno intero a decidere se fare un congresso e poi non hai fatto un congresso, ma hai fatto le primarie. E da questo punto di vista io spero che lo condivida anche Zingaretti quello che sto per dire. L'idea che l'elezione di un leader, per quanto diciamo diverso da quello precedente, con idee nella sua mozione congressuale c'erano quei barlumi di autocritica che invocava Fabrizio, eccetera, ma a pensare che basti un leader per fare quell'operazione politica di cui avresti bisogno, secondo me è un retaggio della politica di tutti questi anni che dobbiamo superare. Non è semplice, perché questo, il risultato del Partito Democratico è stato fatto con la prima campagna elettorale in cui il Partito Democratico, inteso come strutture organizzate, praticamente non c'era più. Cioè, questa è la prima campagna elettorale fatta senza partito, quindi questo non è semplice. È tutto da ricostruire. Questa nuova stagione del Partito Democratico, chiamiamola così, è stata inaugurata, cioè Zingaretti è stato votato per due cose, l'unità e la discontinuità. Non sono cose semplici da tenere insieme. Lui fin qui ci ha messo l'unità, io penso che adesso abbiamo bisogno di metterci la discontinuità, perché un'unità tutta rivolta al nostro interno è un'unità molto fragile, l'unità che dobbiamo costruire con quel mondo che è fuori dal Partito Democratico, che è quello da cui ci siamo divisi, e per fare questo c'è bisogno di discontinuità. Io penso che tu hai avuto una comunità a queste elezioni che ha, come dire, ha dato un'apertura di credito a questa stagione. Una comunità che ha voluto reagire alla politica dell'odio, dell'intolleranza, alla dinamica autoritaria. Penso che questa comunità non vada delusa, ma questa comunità non basti se non sei un partito in grado di farti carico di un pezzo di quella rabbia che non solo non è finita alle elezioni del 2018, ma è tornata alle elezioni del 2019, ma che crescerà perché le politiche che faranno questo governo aumenteranno, diciamo, le ragioni di quella rabbia. Allora, alla luce di questo voto, l'Italia si è spostata a destra, dicevamo. L'errore che dovremmo evitare di commettere è proprio quello di aprire un contenzioso morale con l'elettorato, giudicarlo tutto composto da razzisti perduti o analfabeti funzionali, perché questo, come diceva qualcuno, peggio che un crimine sarebbe un errore politico. Grazie. Forse a questo punto io... magari si può dare la parola, perché possiamo poi fare un altro giro, però vorrei dare la parola di nuovo a Marco per capire, almeno nelle nostre analisi, quanto il voto si può spiegare con queste dinamiche sociali ed economiche di cui abbiamo parlato. In particolare il discorso, cioè parlando dei flussi, ma in sostanza ci sono stati degli spostamenti o delle conferme nell'elettorato che rispondono a queste dinamiche sociali ed economiche di cui abbiamo parlato? Ma ti rispondo, però non sono stato stimolato variamente, quindi qualcosa devo dire sulle altre cose. Il primo stimolo verso Peppe sulle elezioni europee come elezioni della grande vittoria 2014, ma anche della grande illusione. Noi lo abbiamo detto, abbiamo ripetuto in tutti i modi nel 2014, attenzione. Cioè, eravate pochi. Sì, però l'abbiamo ripetuto con costanza, senza attenzione probabilmente da parte dei dell'opinione pubblica, non c'è stato mai lo sfondamento verso Forza Italia. Questa era l'illusione che era, circolava nel, soprattutto dentro il Partito Democratico, soprattutto dentro l'ala renziana, diciamo così, del Partito Democratico. Quello che è successo nel 2014 sono state due cose, in parte simili a quelle del 2019. Il calo della partecipazione, comunque una partecipazione molto più contenuta rispetto al 2014, e quindi la bolla che si sgonfia, ma nel momento in cui la bolla dell'elettorato si sgonfia c'è un partito che riesce comunque a gonfiarsi e quindi non percepisce questo sgonfiamento della partecipazione o rigonfiamento dell'astensione, e quindi si gonfia ulteriormente perché è ancora più grosso in una bolla più piccola. Non so se riesco a rendere l'immagine, cosa che invece non è riuscita a fare in questo caso i 5 Stelle. La bolla si è sgonfiata e dentro quella bolla che si è sgonfiato anche il Movimento 5 Stelle. La stessa cosa successe nel 2014, il Partito Democratico era riuscito a gonfiarsi in una fase di partecipazione calante e era riuscito a prendersi praticamente tutto quello che restava dell'area di centro, Scelta Civica. Quello è stato lo sfondamento al centro di Renzi, non lo sfondamento verso Forza Italia, non è mai riuscito davvero a prendersi quel pezzo di elettorato. Però messi insieme queste due cose, cioè il calo della partecipazione e lo sfondamento verso il pezzo di Scelta Civica, ha portato Matteo Renzi al 48%, e lui si era illuso invece di aver conquistato tutto il pezzo di centrodestra, e da di lì poi la strategia del Nazareno. Ci vuoi dire che il Partito della Nazione non era fondato ma come? Non era... No, era un partito della nazione immaginaria, se così. Nel senso, si era immaginato una prospettiva nazionale. Quindi le elezioni europee sono sempre, creano sempre questa illusione ottica. Guarda che chi aveva coniato l'espressione era Alfredo Vergine. Vero. Però immaginava qualcos'altro, immagine, di sostanza. Che certo. Protestò per quest'uso. Sì. Non lo so. Sì, no, protestò. Ma... Sì. Sì. No, scrisse una protesta. Sì, aggiungeva l'elemento popolare, cioè un partito nazionale ma popolare in quel senso, cosa che invece non... E quindi attenzione all'illusione ottica che inevitabilmente si portano le europee. Altro elemento è sul tema territoriale, cioè secondo me questo è il tema storico, nel senso noi dobbiamo incominciare, qualcuno lo sta già facendo e noi dobbiamo continuare a proseguire sull'analisi territoriale, perché la geografia ci dice molto di più, la geografia elettorale ci dice molto di più dell'analisi anche dei flussi elettorali, mi permetto di dire, facendo un colpo basso al presidente dell'Istituto Cattaneo, ma ce lo dice perché oggi, perché i territori si prendono la rivincita perché hanno perso l'organizzazione dei partiti. Esistevano partiti organizzati che mobilitavano i territori e quindi in passato erano i partiti organizzati che connotavano di colore i territori italiani, quindi c'era la zona rossa perché c'erano partiti organizzati dentro la zona rossa, c'era la zona bianca perché c'era un partito organizzato che connotava la zona bianca. Oggi quella disorganizzazione o assenza di organizzazione finisce per farsi connotare dai territori, e oggi sono i territori che connotano di colore politico anche i partiti, e quindi non esistono più le zone rosse e bianche, ma bisogna incominciare a guardare dentro i territori, e lo stiamo facendo. Quindi adesso do un'altra, faccio contenti in questo caso il presidente del Cattaneo, perché stiamo incominciando a guardare i territori, lo facciamo nelle periferie urbane e quindi in quelle fratture che io chiamo le fratture orizzontali. Esiste la frattura verticale nord-sud, ce la conosciamo, è bene che qualcuno continui a raccontarcela, però ormai c'è anche, dobbiamo incominciare ad analizzarla più a fondo, una frattura orizzontale che taglia periferie dai centri nelle aree metropolitane, e l'abbiamo visto benissimo nel 2018, probabilmente lo continuiamo a vedere anche nel 2019, non dappertutto, e questo è un dato che mi sta colpendo ma sul quale ancora non ho riflettuto adeguatamente. Ad esempio a Bologna, cioè a Bologna è un dato in controtendenza, anche perché in quel caso il PD a Bologna ha ottenuto risultati molto più alti rispetto al territorio emiliano-romagnolo e anche del contesto italiano, però nel caso bolognese non c'è più quel partito della ZTL, quindi connotato al centro, debole in periferia, è tornato ad essere, diciamo, omogeneamente distribuito, se non più forte nelle aree lontane dal centro, nelle aree del Savena. Per chi vive a Bologna ad esempio ottiene risultati strabilianti, quindi anche quello va analizzato. L'altra cosa che stiamo facendo, e secondo me è ancora più interessante, è quello che diceva Fabrizio Barca, è di andare a fondo sul tema delle connotazioni, delle caratteristiche comunali, e mettere tutto questo in relazione con il consenso politico. Lo stiamo facendo anche grazie a chi in maniera lungimirante ci ha messo a disposizione dei dati, perché noi non potremmo farlo se non avremmo i dati sulle aree interne, sui comuni e la classificazione dei comuni sulle aree interne. Quindi questo è un progetto di ricerca che stiamo portando avanti ed è esattamente vero quello che diceva Fabrizio Barca, esistono comuni molto diversi. Nel contesto del 2019 lo abbiamo visto, il dato che a me colpisce di più, lo abbiamo chiamato forse le due Italie, è la divisione tra i capoluoghi e non capoluoghi, che dovremmo raffinare molto di più, però la dico perché quello è il primo dato che abbiamo raccolto. Nei capoluoghi delle regioni del nord, per intenderci, la Lega si ferma al 20%, nei comuni non capoluoghi. Nei comuni capoluoghi, se noi prendiamo invece i comuni non capoluoghi, la Lega sale al 40-44%, c'è uno scalino enorme di 20 punti percentuali che appunto ci deve interrogare anche sulle dinamiche. Io sono d'accordo con Barca, dinamiche non solo culturali, perché poi su questo dirò qualcosa, però dinamiche legate anche ai servizi, cioè servizi di cui hanno bisogno quei territori, servizi e anche la questione dello spopolamento. Io ho la fortuna di vivere tra Roma e un piccolo paesino della Romagna, quindi sono la frattura vivente della città campagna, e quindi vedo benissimo la diversa retorica, vedo anche la concezione diversa di chi vive in un paesino su 600 metri a livello del mare in Romagna e chi vive invece in un'area come metropolitana come quella di Roma, e quindi c'è quella frattura. Il caso dei 5 Stelle invece è un caso senza alcuna connotazione territoriale di dimensione comunale, quindi diventa interessante capirlo. Al nord, al sud, è omogeneo in termini di distribuzione del voto, e il PD invece ha ancora questa connotazione sui comuni grandi, comuni capoluogo, Milano, Bologna, Roma, dove ancora ottiene 5-10 punti percentuali in più rispetto agli altri comuni. Ci sono elementi, come dicevo, strutturali legati alla carenza o all'assenza di determinati servizi, in parte c'è, credo, anche l'elemento culturale, però diventa difficile da cogliere in quel caso. E so benissimo che nel momento in cui noi lo andiamo a mettere in correlazione con la presenza di stranieri, in quel comune non c'è correlazione, perché non c'è nessun tipo di nesso positivo. Dovremmo introdurre qualcosa di diverso, dovremmo probabilmente introdurre la paura, il rigetto culturale che in quei comuni si sente forse più forte rispetto alle aree metropolitane, che sono ormai più conviviali, esatto, hanno metabolizzato l'elemento multiculturale, quindi il rigetto è meno forte. In parte è anche legata alla percezione del fenomeno, ed è un aspetto che noi proviamo ma non riusciamo mai ad andare a fondo, perché un conto è la percezione, un conto è la realtà del fenomeno migratorio, e quindi nei momenti in cui si infilano tutte queste dinamiche forse si spiega anche quello scalino tra piccoli comuni e comuni di grandi dimensioni. Ultimo aspetto, perché io sono d'accordo sul, diceva Peppe, loro tre dicono tutte le stesse cose, quindi ogni tanto serve qualcuno che dica una cosa diversa, altrimenti non ci sarebbe gusto, e quindi ho provato a vedere se c'è qualcosa di diverso. In parte lo vedo in Salvini, cioè Salvini che ha una retorica convincente. Non mi convince quello che diceva Elly sull'importanza di Facebook o sull'importanza dei social media, ma questo è un problema mio, nel senso che credo che quella vittoria non derivi dal modo in cui lui utilizza, no, però io continuo a pensare che ci sia qualcosa di più profondo anche nella vittoria di Salvini, che va al di là dell'elemento social, tra virgolette. Il tema è come ribaltare la retorica. La divisione profonda nella diversa visione retorica, lo accennava Peppe, da una parte c'è un partito che ha messo sul piatto e sull'agenda il tema della migrazione, il tema dell'emergenza, della paura della migrazione, e quindi ha visto il problema sono i 28.000 migranti che nel 2018 sono arrivati sulle nostre coste, 28.000. Nello stesso tempo c'è il problema dello spopolamento, in parte che va a toccare le generazioni più giovani, e quelle che dall'Italia se ne vanno verso gli altri paesi sono una cifra che è enormemente più alta rispetto ai 28.000. Mi tengo in difetto, e quindi per non dare adito a nessun tipo di interpretazione, ma sono di solito annualmente 55.000, cioè i giovani italiani che vanno a cercare fortuna, lavoro, esperienza fuori dall'Italia. però da una parte c'è un partito con un leader abilissimo, un mostro nella campagna elettorale in questo senso, che riesce a prendere quei 28.000 e a farli fare, a farli suonare, cioè a farli diventare rumore politico, a farli diventare, a metterli sull'agenda della politica. Dall'altra parte non c'è nessun partito che invece si prende quei 55.000 o le altre questioni legate a quei 55.000 e li mette dentro il piatto dell'agenda politica. E qui c'è una questione di, come dire, di abilità, di classe dirigente, di un partito che ha un leader efficace, di altri invece che fanno fatica a prendere i loro temi, a metterli, sbatterli sull'agenda. Ultimo punto è sul PD. Io sono d'accordo, nel senso che Zingaretti aveva la sfida, aveva la doppia sfida, unità e poi discontinuità, questa era la sfida. E temo che lui dovesse affrontarli in due momenti, cioè lui doveva adesso vincere la sfida dell'unità e poi da adesso in avanti, dal 27 maggio in avanti, affrontare la sfida della discontinuità. Se lui perdeva la sfida precedente non poteva fare la seconda, e quindi ha cercato di vincere mantenendo. Adesso però si apre la sfida della discontinuità, discontinuità anche da un punto di vista organizzativo, perché quello è il tema, e non, lo accenno davvero di passata, non si può pensare che le elezioni primarie siano la fine della democrazia. Io che me ne sono occupato variamente, però ho sempre detto attenzione, cioè le primarie non sono il momento finale di un percorso democratico, sono il momento iniziale di un percorso democratico che deve cominciare dal di lì, mentre invece il PD ha pensato che con le primarie si finisse l'organizzazione della democrazia. Errore madornale che infatti ha pagato anche in passato. Io lascerei il... Grazie Marco. Lascerei, se qualcuno ha delle domande, così diamo un'occasione ai nostri relatori per rispondere. Abbiamo ancora un po' di tempo. Sì, prego. Provenzano prima era preoccupato per il centro, è una cosa autolesionista quella che sto per dire, però il senso di rilevanza politica che io provo in questo momento ne deriva dal fatto che nessuno è preoccupato per la sinistra, e invece sparisce questa elezione, perché il centro e il PD, può piacere, può non piacere, ci sarà la fase prima, la fase 2, ma insomma quello è, tanto è vero che D'Alema, che rimane pur sempre l'uomo più lucido, anche se un po' perfido, all'interno di quel gruppo dirigente, quando l'intervistatrice gli dice ma Calenda vuole fare la scissione perché vuole fare il partito moderato, gli dice beh, tra secolo, Verratti sia un uomo, cosa lo fa fare? Secondo me... Bravo, bravo. Secondo me... Bravo Peppe. L'aveva già fatto lui. Lucido in questo senso. Esattamente, cioè, l'aspettiamo ancora. Sì. Aspettiamo da tempo, appunto, però, ci ricordi il bombardamento della Serbia, no? Sì, esattamente. Un momento dominante della sua storia politica. È tendenzialmente quello, e qui il problema è che non c'è la sinistra, cioè se si votasse oggi il Parlamento italiano la sinistra scomparirebbe di qualunque genere. Io non riesco a capire come si possa fare la riconversione ecologica dell'economia senza l'esistenza, voglio dire, di un pensiero di sinistra, seppure arricchito da un pensiero ecologista che è necessariamente di tipo nuovo, altrimenti non è. Perché è evidente che bisogna incidere sulla struttura sociale e produttiva, non solo dell'Italia, ma dell'intera Europa. Ora, su questo risultato della sinistra mi inviterei a riflettere un attimo, perché da noi è stato un disastro. In altri paesi europei non è andata così. In Grecia si è perso, ma il Portogallo non è che ha vinto solamente Costa, ha detto anche la sinistra alternativa che ha appoggiato il governo, a dimostrazione che non è il governo la discriminante per la sinistra alternativa, cioè stai all'opposizione ai voti per il governo e li perdi, non c'è questa meccanica né in un senso né nell'altro. E nello stesso tempo i socialisti europei non possono essere amalgamati in tutto e per tutto, identificati con quello che definiamo la socialdemocrazia classica, perché un conto è la sconfitta dell'SPD, che è netta, pesante, enorme, anche il loro tentativo di svolta sinistra nell'ultimo momento superando l'AS4 e il mini job non gli ha portato nessun risultato, il risultato di Sanchez in Spagna e il risultato di Costa in Portogallo è di un altro tipo, e siamo di fronte a una diversificazione tra i socialisti e i socialdemocratici, quindi la faccenda si fa un po', direi, forse più interessante. E comunque vi inviterei a riflettere, voi direte non è un problema vostro, è un problema mio, e sono d'accordo, per carità, è che c'è un problema di far esistere la sinistra nel nostro paese. Se mi permettete di essere un po' provocatore, io ero venuto qua per sentire e ora che si fa dell'Europa. Era il secondo giro che era previsto, io infatti gli avevo chiesto, solo che poi ci siamo un po' inviati nel primo. Però io non ho sentito parlare ora che si fa dell'Europa. Devo dire che avete diverse giustificazioni, scusate. Il momento che si fa una riflessione su dopo elezioni, queste elezioni, ma come tutte le elezioni europee, alla fine sono sempre elezioni nazionali, prima cosa. E quindi se si fa una riflessione sul dopo voto non si può non andare. La seconda cosa è che poi anche nel dibattito preelettorale di Europa si è parlato assai poco, soprattutto si è parlato assai poco in termini progettuali, al massimo europeisti sovranisti, la targhetta, ma dietro la targhetta non c'è stava niente. Ma non c'è stava niente né da una parte né dall'altra parte, nel senso che non ci stava niente né i cosiddetti sovranisti, ma non ci stava niente neanche dagli europeisti in termini progettuali di veramente che fare dell'Europa, in un momento in cui gli equilibri politici mondiali stanno cambiando, gli equilibri economici mondiali stanno cambiando e l'Europa avrebbe bisogno di avere un ruolo, un peso, un progetto. Quindi questa è queste sono due annotazioni: il primo, che le elezioni alla fine sono sempre elezioni nazionali, e il secondo, che poi di Europa alla fine non si parla mai, che insomma mi mettono un po' di cattivo umore. Insomma, io ricordo una cosa di Padoa-Schioppa quando diceva: forse l'Europa sarà vicina quando il dibattito politico si sposterà dal livello nazionale a livello europeo. Siamo ancora a livello nazionale, ha detto questo. E devo dire che, tra l'altro, poi mi mette male umore il fatto che veramente non c'è proprio, e poi ci sarebbero gli spunti, pensiamo all'avanzata dei Verdi. Quando si parla dei Verdi, quando si parla di sostenibilità, si parla di temi che possono essere governati soltanto a livello sovranazionale, perché la loro giurisdizione economica è sicuramente molto superiore alle giurisdizioni politiche, quindi è evidente che là c'è bisogno di Europa, c'è bisogno di un governo sovranazionale, una modalità di governo. E invece tutto questo non se ne trova parlato, insomma, non è fuori. Questo secondo me, ecco, io su questo bisognerebbe interrogarsi prima ancora sulla crisi del PD o di Berlusconi o di qualche altro. Seconda cosa, secondo me anche la chiave, chi ha vinto e chi ha perso, vedendola in termini di partiti, questo o quest'altro, è una chiave, secondo me, anche questa abbastanza datata. Io penso che qua non c'è una crisi della sinistra o una crisi di questo o una crisi di quest'altro, qua c'è una crisi delle forme partito. Non è un caso che alla fine quelli che vincono sono i movimenti, i Verdi, Lega è un movimento, i 5 Stelle ora hanno perso, è un movimento, cioè, quindi c'è un problema secondo me che va analizzato anche in termini di crisi della tradizionale forma partito alla quale vecchi partiti poi non hanno saputo tanto adattarsi. E questo dà molto non tanto sui contenuti, sulla comunicazione, che sulla comunicazione sono vincenti i movimenti, quello è un fatto. Scusate. Ma per carità, grazie anzi. Ci sono altre domande? Io direi c'era ancora senso fare mettere insieme, se sono elezioni amministrative insieme va bene, ma fare un livello europeo, a un livello amministrativo penso che quello che viene escluso è il livello europeo. Io per la verità sono perplesso su queste ultime affermazioni, non si è parlato di Europa. Direi che dal 79 oggi l'elezione europea in cui un po' si è parlato di Europa è proprio questa. Se ne è parlato in modo a volte confuso, ma lo scontro che c'è stato in Italia e all'estero ed è l'unico forse elemento unificante del confronto tra Italia e il resto del di Europa si è parlato, anche se, lo riconosco, piuttosto genericamente, europeisti contro sovranisti, senza entrare dentro sulle rispettive posizioni, sulle critiche, sulla necessità di innovare. Io credo che insieme possa essere affrontato il problema Europa e partiti, perché un elemento di debolezza che continuiamo a scontare anche quando si parla di Europa è l'inesistenza di strutture partitiche o di movimenti o di associazioni che riescono a tenere la dinamica interna con le dinamiche europee. Un'altra osservazione vorrei fare, e questa è piuttosto preoccupata, perché da un lato giustamente Elly Schlein dice, badate, i sovranisti non hanno vinto in Europa, però guardiamoci dal grido di soddisfazione, abbiamo battuto i sovranisti, ma non solo per la considerazione che facevi sul grado di influenza sul dibattito politico, anche per considerazioni più corpose, ne aveva fatto cenno Provenzano, di architettura. Negli ultimi anni noi abbiamo avuto in Europa e nell'Unione Europea due logiche e stiamo patendo la doppia logica, l'una fra virgolette federale, dove vanno messe, qui non è un problema ci piace o non ci piace, la logica, il Parlamento, la con la Corte di Giustizia alcune competenze della Commissione, la stessa BCE, indipendentemente, ripeto, dal fatto che poi possiamo consentire o dissentire con le singole politiche che si fanno. Dall'altro lato c'è il Consiglio, e nel Consiglio, Provenzano diceva, la Camera di Compensazione, nel Consiglio sono gli Stati, e il sovranismo delle rappresentanze in seno al Consiglio travalica molto le ideologie cosiddette sovranistiche, perché chiunque, anche il più europeista, Macron o la Merkel, che in questi 20 anni o quasi più di lì è stata la più europeista, in quella sede ha fatto sempre valere gli interessi nazionali. Allora, tenendo conto di ciò che è successo in Ungheria, di ciò che è successo in Polonia, di ciò che è successo in Italia, del peso che queste culture avranno nel dibattito generale, io mi prefiguro che già il freno che il Consiglio d'Europa ha sempre rappresentato verso le dinamiche federali, tra virgolette, aumenterà. Noi non ci troveremo meglio, pur avendo sconfitto i cosiddetti sovranisti, ci troveremo peggio, su posizioni più arretrate, e questo probabilmente deve essere uno degli altri elementi di autocritica della sinistra, perché se oggi avessimo quelle cose che la sinistra ha rigettato 15 anni fa, staremmo ancora a fare battaglie, ma le battaglie sarebbero di livello molto più avanzato rispetto a queste battaglie arretrate. Riferisco alla cosiddetta Costituzione Europea, e anche non solo a ciò che è successo in Olanda e in Francia, ma anche applauso che pezzi importanti di sinistra italiana hanno dato gli esiti del referendum. Insomma, io vedo la costruzione europea più complicata e difficile. In questi anni l'Europa è esistita quando aveva le competenze di Europa. Esatto. Ed è stata frenata da domani. Esatto. Da domani sarà peggio. Esattamente. Dunque, allora io direi i nostri possono rispondere. Io vorrei anche proporre ai nostri, a Fabrizio Bacca e a Pepe, di dire anche qualcosa sul che cosa fare dell'Europa, sull'economia, perché secondo me è anche questo uno dei terreni decisivi su cui l'Europa ha fallito, e l'idea d'Europa, e quindi, però non c'è una prospettiva ancora chiara, al di là del fiscal compact, come ritornare all'Europa sociale. E come superare l'Europa della austerity. Bene. Aspetta, avevo prenotato la risposta da un po', se posso, sulle questioni su cui mi ha anche richiamato direttamente. Io non solo non sono preoccupata di quell'area, chiaramente, appunto, prima avevo chiesto per Giorgio se il secondo giro fosse più sulla prospettiva e sulla nostra area, no, sul campo della sinistra, per questo prima l'ho saltato letteralmente a piedi pari, ma non solo non sono preoccupata dall'aspetto che lei richiamava prima, ma ne sono talmente preoccupata che non mi sono candidata per quella ragione, cioè, fatto male dice, attenzione, ho fatto male, dipende dai punti di vista, se uno pensa che sono le liste, no, quello non è una considerazione, attenti, non c'è tatticismo in quella scelta, allora devo fare un minimo di contesto. Da dove veniamo? Dagli anni di peggiore crisi politica dell'Unione Europea, perfettamente adesso sintetizzata dal Presidente. Come si è creata? Andiamo a guardare le cause di quella crisi, abbiamo poco tempo e tardi, la banalizzo. Due sono i momenti da fissare. L'affossamento del trattato costituzionale europeo nella votazione in quei due stati membri cosa segna? Una crisi politico-istituzionale da cui non siamo mai usciti. Il dibattito sulla riforma complessiva dell'impianto europeo non si è mai ripreso, è diventato una sorta di tabù. Abbiamo provato noi al Parlamento europeo con alcune risoluzioni, la Verhofstadt e la Brok-Bresso, almeno a indicare in quale direzione bisogna riformare l'Unione. Perché? Ce lo dice il professor Ferraioli, perché è necessario. Perché dopo le guerre si ha l'intuizione che ad ogni potere si è posto un limite allo stesso livello, ma era quello un mondo in cui i poteri essenzialmente si muovevano entro i confini nazionali. Oggi, paradossalmente, il manifesto di Ventotene ci è più necessario di quando fu scritto dalle madri fondatrici e dei padri fondatori. Perché? Perché allora veniva scritto con il peso dell'essere confinati e la consapevolezza che i nazionalismi nella storia di questo continente hanno sempre prodotto solo un risultato, le guerre. E allora dici, come fai ad assicurare un futuro di pace? Immagini la Federazione Europea, immagini gli Stati Uniti d'Europa. E invece oggi ancora più forte è il bisogno di quella maggiore integrazione europea, perché tramite i processi di globalizzazione le sfide su cui oggi ci giochiamo il futuro sono tutte europee, globali, e non possono più trovare risposta entro i ristretti confini nazionali. A questa crisi politica istituzionale si è ben presto saldata quella economica e finanziaria, a partire in particolare dal 2008, da cui ancora non siamo usciti. Cosa ha prodotto il saldarsi di questa crisi politico-istituzionale con quella economico-finanziaria? L'accentuarsi di quei caratteri di egoismo nazionale che hanno frenato il progetto europeo, impedendogli di essere davvero unione, di mettere in comune quelle competenze necessarie per affrontare meglio, ad un livello più adeguato, queste grandi sfide. Sul dato economico c'è una cosa da aggiungere. La retorica dei grigi eurocrati a Bruxelles che decidono sulle nostre teste, di cui tante di queste forze peraltro si sono nutrite in questi anni, ma non solo loro, è una retorica totalmente infondata, perché tende a nascondere i responsabili politici che stanno dietro ogni scelta presa a Bruxelles. È troppo... Quella retorica fa un favore a chi vuole lasciare le cose esattamente come stanno, perché io me la prendo per il fiscal compact, per i parametri di bilancio, e penso, ma chi li ha fatti, chi li ha voluti? Ecco, quelli sono quelle scelte economiche e sociali che hanno aumentato le diseguaglianze in questi anni attraverso la crisi anziché ridurle, aprendo la strada, perché non è che ci siamo svegliati un giorno che erano tornati i nazionalisti e i fascisti. Quella avanzata è anche il prodotto della mancanza di risposte ad una domanda di sicurezza che c'è in tutta Europa, ma è una domanda di sicurezza sociale, di sicurezza sul proprio futuro e quello dei propri figli. Allora, a quello è mancata completamente una risposta di quella dimensione sociale europea indispensabile, che non è di per sé impedita dai trattati, come sostiene una parte della sinistra, abbiamo un dibattito anche acceso su questo, no? Non è impedita dai trattati. Chi mette in contrapposizione i trattati europei, la Costituzione, sbaglia profondamente, perché hanno invece subito lo stesso triste destino, che quella parte che pur c'è anche nei trattati, anche se scritti con un impianto teorico e di cultura politica molto diverso, quell'impianto che aveva un embrione di dimensione sociale non è mai stato attuato, così come non è pienamente attuata la Costituzione se abbiamo un diritto alla salute e 12 milioni di persone che non si possono pagare le cure. Allo stesso modo, per mancanza di volontà politica dei governi non si è fatto nulla per cercare di dare quella risposta sociale indispensabile per ridurre le diseguaglianze e per spiegare a quelle persone che hanno sofferto più la crisi a cosa serva concretamente l'Unione Europea nelle loro vite. Allora, brevemente, quali sono le grandi sfide che non risolviamo più a casa? Quella migratoria, di cui mi sono occupata personalmente. La riforma di Dublino è paradigmatica di cosa manca all'Unione e del perché sia fondamentale. Quale dei nostri stati oggi affronta da solo il fenomeno migratorio, che non è un'invasione, intendiamoci? 2016, anno di maggior numero delle richieste d'asilo, erano 1.300.000. Certo che sono tante se le immaginiamo tutte insieme, questa umanità sofferente in cammino attraverso i confini, ma stiamo parlando di 500 milioni di abitanti in questo continente, lo 0,25% della popolazione europea, nulla che i 28 non potessero gestire con soluzioni condivise come quelle per cui abbiamo lottato e che abbiamo fatto approvare al Parlamento europeo. Piccola parentesi, quanti di voi, siate sinceri, sapevano prima di stasera che nel novembre del 2017 una maggioranza storica dei 2/3 del Parlamento europeo ha votato una riforma del regolamento di Dublino, che è quello che ha bloccato migliaia di persone nei primi paesi di arrivo da 20 anni, ecco, ha votato una riforma che cancella quel criterio ipocrita del primo paese di accesso e lo sostituisce con un meccanismo che chiede a tutti i paesi europei, anche l'Ungheria di Orban e la Polonia, di fare equamente la propria parte sull'accoglienza. Quanti lo sapevano? Alzatemi le mani. 1, 2, no, dopo vi spiego perché. Come? Adesso ci arrivo, non fate spoiler cortesemente, non fate spoiler. Allora, qui è una platea particolarmente ben selezionata e informata, ed eravate più o meno, forse leggermente più della metà. Ecco, quando faccio questa domanda, normalmente in giro per le platee meno ben selezionate di quella della Fondazione Vasta e dell'Istituto Cattaneo, si alzano 5-6 mani su 100, è parte del problema che ci dicevamo. Avete ragione entrambi, dico una cosa che potrebbe stupirvi, è vero che si è parlato di tutto, di Siri, di cannabis, fuorché di quali progetti per il cambiamento profondo dell'Unione avessero le liste in corsa, è altrettanto vero che oggi però abbiamo un livello di europeizzazione del dibattito maggiore su alcuni temi in particolare come quello migratorio, a cui non eravamo abituati. Però è comunque... Come? Ecco, adesso ci arrivo. Perché non è realtà? Perché dico che Dublino è paradigmatica? Perché da un lato ti racconta perché tu ne hai bisogno dell'Unione, dall'altra però devi capire che cosa manca. Cosa manca? Manca che chi frena di nuovo questa grande ambizione del Parlamento di mettere in comune, di dare risposte europee a delle questioni che sono così chiaramente condivise, è il Consiglio, dove siedono i governi, e anche se sono le stesse nazionalità, pensateci, e le stesse famiglie politiche identiche che siedono al Parlamento europeo, lì, in quel tavolo rotondo, anziché sedersi gli uni rivolti verso gli altri, si siedono al contrario, esclusivamente volti alle proprie politiche, opinioni pubbliche nazionali, e si dicono: ma perché dovrei farmi carico io in fondo di un problema italiano, di un problema greco? Ora, come si risponde a questo? Così ci arrivo in breve. La questione climatica è estremamente connessa a quella delle diseguaglianze, che è la questione cruciale dei nostri tempi, e si abbattono i cambiamenti climatici più duramente su chi ha sofferto di più l'aumento delle diseguaglianze attraverso la crisi, e serve anche lì un quadro di regole sanzionabili e comuni per tutti, che valichi i confini nazionali. Questo mi sembra evidente. Con Parigi si è fatto un passo avanti, si dovrebbe avere il coraggio di fare di più. L'Unione Europea ha degli standard elevatissimi da questo punto di vista, perché il Parlamento Europeo ha strappato ai governi che non li volevano dei target vincolanti sull'efficientamento energetico, sul passaggio alle rinnovabili e anche sulla riduzione delle emissioni di CO2. Da ultimo la vicenda della plastica, che forse avete seguito, con la riduzione e l'eliminazione progressiva della plastica monouso. Ecco, di questi bisogna essere orgogliosi, bisogna riconoscerlo. La terza questione è quella, ve l'ho detta, delle politiche sociali. Le politiche sono state folli, di rincorsa cieca dell'austerità, senza dimenticare che posso capire, diciamo, il tema del controllo di bilancio è un tema importante. Chiaramente però si diventa ossessivo, è l'unica ossessione, e non è accompagnato da un grande piano di rilancio degli investimenti come un grande Green New Deal per l'Europa, come quello che noi chiedevamo in questi anni, cioè andiamo a prendere le risorse dove sono, perché non è vero che non ci sono. Abbiamo un problema di evasione ed elusione fiscale delle multinazionali nell'Unione Europea, che è scandaloso. Abbiamo paradisi fiscali senza palme, si perdono, secondo alcune stime, fino a 1.000 miliardi di elusione ed evasione fiscale delle multinazionali. Prendetele con le pinze, sono in mezzo a studiosi rigorosi, sono le stime di Richard Murphy queste. Fosse anche solo la metà di quella cifra, avremmo quei 500 miliardi da iniettare per accompagnare la trasformazione ecologica e la transizione ecologica delle nostre economie, che vuol dire produrre occupazione di qualità e in quantità, perché le due cose devono stare insieme, se no sei la Germania e i mini jobs della Germania con un grande livello di precarizzazione del lavoro. Allora, che valorizzazione ha avuto questo dibattito in Europa? Poca. Con gli amici di Diem e Varoufakis abbiamo provato a parlarne molto, c'è stato più interesse da quando l'ha adottato anche Ocasio-Cortez e la piattaforma dei democratici americani, che stanno facendo un ottimo lavoro per ficcare questa questione con forza nel dibattito. C'è anche da chiederci perché non è arrivata quella roba in Italia, così rispondo, non sfuggo alla domanda. Il motivo per cui ho deciso di non ricandidarmi è esattamente quello che io ritenevo, e ho provato a convincere i miei interlocutori in 10 mesi di lunghi sforzi, che oggi gli unici due confini che ci possiamo permettere sono quelli di coerenza, che dicono no a chi si pone in continuità con le politiche dell'austerità che hanno aumentato quelle diseguaglianze, e no a chi si, diciamo, lascia richiamare dalle sirene del nazionalismo a destra come a sinistra. Lì in mezzo c'è quel terzo spazio di cui abbiamo parlato, dove la questione ambientale e la questione sociale stanno inscindibilmente insieme. E quello che io dicevo loro è che era da pazzi chiedere alle piazze spontanee, che abbiamo visto riempirsi mentre i partiti nostri sono tutti più o meno vuoti, riconosciamocelo, Le abbiamo viste riempirsi sulla questione climatica insieme a Greta Thunberg, sulla questione della parità di genere insieme a non una di meno in quella bella piazza romana dove eravamo in tanti, la questione del lavoro con la piazza dei sindacati e poi quella di Bologna del primo maggio, la questione anche, non dimentichiamo, della solidarietà ai migranti da Riace a Catania alla bella manifestazione di Milano del 2 di marzo, ok? Io in quelle piazze ho visto le stesse facce per lo più, con una grande sovrapposizione di energie che si sono messe in gioco. Mi sembrava da folli chiedere a quelle piazze di scegliere se si sentono più ecologiste o più di sinistra. Ho provato in tutti i modi a convincere gli interlocutori nel campo che speravo fossimo tutti consapevoli della nostra non autosufficienza, perché tutte le nostre organizzazioni ormai bisogna riconoscere che sono poco radicate nella società, ma che c'è una grande voglia di mobilitazione che si sta aggregando su questi temi. Ecco, io credevo semplicemente che chi oggi la pensa allo stesso modo sulla lotta alle disuguaglianze, la questione climatica, la questione migratoria, la giustizia fiscale e come democratizzare l'impianto europeo, ecco, avesse la responsabilità politica di stare insieme. Questo purtroppo non si è fatto. Ho evitato di commentare quella parte del risultato elettorale, anche perché è antipatico farlo dopo, per dovere semplicemente considerare che è successo esattamente quello che ho spiegato loro per 10 mesi che sarebbe accaduto. Sarebbe facile ancora di più dire 2,3 più 1,7 quanto fa? Fa 4%, poi sapete che non è mai una somma aritmetica. Io credo che invece avrebbe sfondato ampiamente quella soglia, perché credo che il dato di cui occuparci di più è quello dei 6 milioni di elettori netti che il Movimento 5 Stelle ha perso, soprattutto al Sud, e che non sono andati a votare. Perché una parte consistente è andata alla Lega, una parte meno consistente è andata al PD, come ci raccontano anche le vostre analisi, la gran parte di quel voto non è andato a votare. Io credo che una proposta forte, credibile, rinnovata, che corra anche il rischio di, ecco, di occuparsi di temi che sono difficili. Il tema dell'immigrazione è un tema difficile, ma è una grande arma di distrazione di massa per nascondere che sono più quelli che sono emigrati l'anno scorso di quelli che sono arrivati. Ma se tu lo affronti con una prospettiva europea e spieghi che la buona accoglienza è solo la buona accoglienza diffusa a livello europeo, nazionale come locale, se spieghi quali opportunità può creare qui, io non rinuncerei mai a fare anche questa battaglia, come hanno scelto alcuni partiti socialdemocratici, rafforzando esclusivamente il discorso della destra. È successo in Austria, è successo in Francia, è successo anche in Germania. Arrivo a chiudere su una questione: le due cose devono stare insieme. Io credo che bisognerà continuare a fare questo sforzo in Italia, penso che ce ne sia bisogno. Quando qualche mese fa, prima insomma di arrivare alla fine, ho provato a arricchire il dibattito con una piccola riflessione che diceva: non abbiamo bisogno di due o tre liste che dicano le stesse cose, e non abbiamo bisogno di una lista che ambisca a tenere dentro tutto e il contrario di tutto. Avremo bisogno di una grande operazione di chiarezza verso gli elettori, e ve lo dico qui, lo dirò anche a chi di dovere quando ne avrò l'occasione, perché il dibattito è questo, ma gliel'ho già detto rifiutando una generosissima offerta di candidatura anche nelle liste del PD, che io penso che non sia il fronte da Macron a Tsipras quello che ha bisogno oggi l'Europa per salvarsi. Io ho lavorato con i liberali, posso farci una riforma dell'impianto dell'Unione, ci ho fatto la riforma di Dublino, ma ognuno deve fare il mestiere suo. Io penso che non possiamo pensare che lo scontro sia davvero tra europeisti e nazionalisti, perché io, da spinelliana convinta, li ho imparati a riconoscere quegli europeisti di facciata che poi fanno valere solo e esclusivamente il loro interesse nazionale al Consiglio. Io mi incacchio, scusate, con Orban perché è Orban e con Salvini perché è Salvini, ma sono più incacchiata con Merkel e Macron, perché se volevano salvare davvero l'Europa prendevano la riforma di Dublino già approvata dal Parlamento europeo a 2/3 di maggioranza, dalla sinistra, dai verdi, dai liberali, dai socialisti e dai popolari, e la sbattevano sul tavolo del Consiglio, perché intendiamoci su questo, è quell'establishment europeo che sta consegnando l'Europa ai sovranisti, perché attenzione, per arrestarli non gli devi lasciare quel campo. Merkel è stata coraggiosa a dire wir schaffen das nel 2015, ma quando si è trovata in difficoltà cosa ha fatto? L'accordo UE Turchia, ecco, e ha fatto sì che Orban si rafforzasse molto su questo tema. Io credo che oggi sia il tempo appunto del coraggio. Arrivo a chiudere su davvero questo, mi ero segnata tantissime cose che avete detto e che mi fanno molto piacere, arrivo a chiudere però su quello che credo serva davvero per salvarci e su cui anche io personalmente dall'Italia continuerò a impegnarmi, e cioè, io prima ti ho detto che un'altra maggioranza c'è, Peppe, ad esempio quella di 363, che basterebbe che i grillini votassero insieme come spesso hanno fatto con noi su alcuni temi, per avere una maggioranza oltre i 376, è quella che tiene insieme GUE, Verdi, Socialisti e Liberali, ok? Su alcuni temi dei diritti, ad esempio, quindi pure con Macron. quello che no, scusate, ci vuole un chiarimento, vabbè. Sarà una discussione dei prossimi mesi piuttosto accesa. Io penso che sia folle che qualcuno dica, anche dopo l'esito di quel voto, che le elezioni si vincono al centro e si vincono tra i moderati, perché quell'area lì è già coperta, è stata fatta una perfetta operazione da chi ha preceduto Zingaretti in quel ruolo. Penso che abbiamo perso completamente l'altra parte, ma non penso che non esista, occhio, non penso che perché si sono fatte male le due liste di Europa Verde e la sinistra che non esista quell'elettorato nel paese. A me è parso di incontrarlo molto spesso, tanti come me hanno fatto fatica a scegliere, perché o votavi i compagni con cui avevi fatto le battaglie per Mediterranea e sui migranti, oppure dovevi votare quelli con cui avevi fatto le battaglie per la carbon tax e per la transizione ecologica delle comunità. Non era una scelta facile. Molti hanno scelto il candidato migliore della lista del PD sulla base della considerazione che almeno sarebbe passato. E così un grande bellissimo exploit, che io saluto con favore, di Bartolo, ma anche di Maiorino, di Pisapia. Ma in prospettiva, qual è la soluzione a questo? Io credo e sono convinta che ci voglia una forza che tenga insieme la questione ambientale e sociale senza ambiguità, e che non tenga in seno quell'ambiguità lì che ti porta Macron, che vuol dire ci puoi votare delle cose ma non ci farei un partito insieme. Non so se Beppe... Dico io, così chiude Fabrizio, che è il più alto in grado, e giusto che io, insomma, rispetto le liturgie. No, vabbè, appunto, lascio, devo allontanarmi. No, allora guarda, io sarò tanto velocissimo. Tanto sulle tenerli più di altri 7. Ma guarda, sull'Europa io in realtà dovrei ripetere le cose che ho detto prima, sulla proposta sull'Europa, cioè l'idea del fatto che quello che propongo è un'alleanza delle sinistre mediterranee che avanzi una proposta di riforma dell'Europa. Questo perché Francia e Germania devono scegliere se scegliere il Mediterraneo o scegliere Visegrad. Esatto. E su questo sono stati molto ambigui. Questa è la proposta che io vedo, ed è una proposta di lavoro. C'è un tema però, che è quello che diceva Ippolito, che avevo provato ad accennare prima all'inizio, dell'architettura. Su questo io sono molto dell'architettura dell'Europa. Su questo io sono molto, diciamo, meno ottimista di Elli. Io penso che noi possiamo riprendere una riforma dell'architettura dell'Europa solo se abbandoniamo l'illusione, non solo di Ventotene, che quella proponeva un'Europa socialista, noi sbandieriamo il manifesto di Ventotene senza nemmeno averlo letto, ma soprattutto se si rinuncia all'idea di un'Europa a 27, che è ingovernabile. Anche questa è stata forse una scelta, diciamo, che dovremmo ridiscutere. Forse è stata obbligata per come è andata la storia, ma per come è stata realizzata è stata una scelta scellerata che impedisce di fare quell'approfondimento necessario dell'integrazione. E proprio in questa scelta dovremmo fare. Ma non basta però una proposta di riforma istituzionale. Il referendum costituzionale è fallito in Francia per lo spauracchio dell'idraulico polacco, non so se ve lo ricordate. Certo. O quella proposta di riforma istituzionale si è nutrita da una proposta sociale profonda per l'Europa, oppure rimarrà di nuovo una battaglia persa. Da questo punto di vista non la faccio lunga. Riforma dell'Eurozona, armonizzazione dei sistemi fiscali e degli standard sociali per fare, esatto, investimenti e per fare la transizione ecologica, però che sia equa e sostenibile, perché su questo, guarda, con le forze verdi io capisco l'entusiasmo di Elli per i risultati delle sortelli, però ci sono anche, diciamo, delle contraddizioni interne molto forti, e non mi riferisco al fatto che c'è partiti di destra tra i verdi, diciamo, sono un po' più a destra di Macron, ma per il fatto che cioè io non vorrei che, come alcune forze verdi stiano ponendo la questione, questa è una preoccupazione che mi sembra trapeli anche da un pezzo, diciamo, della discussione che si è svolta in Germania, non diventi un'istanza da capitalismo maturo, quella dell'istanza ambientale, e non ponga invece il tema di fondo che è la riforma, l'alternativa al capitalismo. Perché questo è, diciamo, la transizione ecologica. No, non sono la stessa cosa. Ho detto la riforma, se non l'alternativa, diciamo, a un'evoluzione del capitalismo che sta non solo creando quei danni ambientali che noi conosciamo, ma che distrugge la democrazia. Questo è il tema. E su questo, diciamo, ci vuole anche un chiarimento, cioè la sommatoria ecologia, sinistra, cioè è una cosa che va discussa, va approfondita fino in fondo. Vabbè, Gianni se n'è andato, ma io inviterei tutti a evitare, cioè non siamo nelle condizioni di dare etichette a nessuno, Gianni, cioè tu dicevi il Partito Democratico è un partito di centro, lo è stato il Partito Democratico, è un partito chiaramente di centro-sinistra che ha guardato a centro, al centro se non a destra, come ha ricordato negli ultimi anni, ma se alle primarie del Partito Democratico vanno a votare 700.000 persone che si dichiarano non di centro-sinistra come il Partito Democratico, ma di sinistra, sono in valore assoluto gli stessi elettori che ha preso la sinistra alle elezioni europee. Quindi io eviterei di apporre etichette, ma per una ragione più profonda che ha a che fare con il rapporto con la società e la costruzione del consenso. Guarda che il tema che io mi sono posto del Partito Democratico, che è un partito delle città, ma vale a maggior ragione per la sinistra. Se tu guardi la geografia elettorale e sociale di questo voto, è una geografia che per le forze a sinistra del Partito Democratico riproduce gli stessi problemi, quindi queste nostre divisioni che ci sembrano così decisive e praticamente non hanno poco senso per quelli che dovremmo rappresentare. Insomma, il tema è appunto la svolta sociale, questa lo puoi fare anche cambiando la retorica, perché non è vero che gli italiani hanno in cima alle preoccupazioni la sicurezza e l'immigrato, ma in cima alle preoccupazioni sono le prospettive economiche, il lavoro, i servizi, il welfare, la casa, eccetera. Questo come lo fai? Ma lo fai come lo sta facendo il Partito Democratico americano, perché non è che ogni proposta la bolla di socialismo, sta facendo delle campagne sociali che concretamente disegnano un modello di sviluppo e in cui si supera la distinzione tra riformisti e radicali, che è priva di ogni ragione oggi. Questa secondo me è la prospettiva di cui avremo bisogno anche in Italia, e c'è un mondo fuori che guarda indistintamente a queste ragioni e ha anche votato il Partito Democratico in queste elezioni. C'è quelle piazze a cui faceva Elli, sono piazze a cui la divisione tra sinistra riformista e sinistra radicale dice molto poco, avrebbero bisogno esclusivamente di una proposta coerente, sociale, molto forte e di una credibilità nei gruppi dirigenti che la portano avanti. Questo secondo me è un tema decisivo. E infine c'è un tema organizzativo. Io sono in disaccordo con chi diceva sono finiti i partiti. I partiti stanno rinascendo e stanno rinascendo in forme nuove. Quei movimenti sono tutti partiti, i movimenti a cui dice, adesso se n'è andato, ma da cui faceva riferimento quel signore, sono tutti partiti, fanno in forme nuove. Noi queste forme dovremmo in qualche modo farcene carico. Quello che dovremmo fare è riconoscere a quel mondo fuori che c'è il protagonismo democratico e sociale, cedere sovranità, perché al fondo questo vogliono le persone, vogliono contare e non conti con le primarie, e farsi riconoscere da queste persone. Io penso, in nome di non delle distinzioni e delle etichette, ma in nome di un'idea di società, io la chiamo idea di socialismo, ma voi chiamatela come volete. Grazie. Grazie Pepe. Vuoi dire qualcosa? Stile Ox, 2 minuti. Primo, per dire che una proposta strategica di modifica dei meccanismi di funzionamento del capitalismo, che abbia la dimensione necessaria per qualunque proposta strategica che chieda cambiamento dei meccanismi di funzionamento del capitalismo nell'anno di grazia 2020, cioè una proposta che abbia almeno la dimensione europea, per cui la necessità dell'Europa e di un partito transnazionale, che tu non cambi niente da un punto di vista nazionale, che è la ragione principale per continuare ad avere l'Europa. Questa proposta, la necessità di una proposta di questo tipo, esiste già. La cosa più contraddittoria, che non è stata evidentemente colta, è una proposta radicale, che come ho detto autocritica dell'esperienza drammatica di 30 anni in cui la sinistra ha giocato a fare il centro perché si è convinta che non esistesse un'alternativa, è già avvenuta all'interno del gruppo socialdemocratico. Se noi non ragioniamo di questo non so di cosa stiamo parlando di niente. È avvenuta all'interno del gruppo socialdemocratico europeo, non poteva avvenire, non è avvenuta all'interno di contesti nazionali, è avvenuta non a caso all'interno di un contesto diverso, perché mentre non esiste il PSE, il Partito Socialista Europeo, esiste il gruppo socialdemocratico europeo, che è fatto di esseri umani, di donne e di uomini, i quali costruiscono alleanze diverse, discutono, trovano, che hanno elaborato una strategia. Alcuni paesi, il Partito Socialista spagnolo, Siriza in Grecia e altri, hanno preso i contenuti di questa piattaforma, che contiene tutte le cose che avete sentito, quindi l'affermazione che qui non si era discusso d'Europa è infondata. Esiste una strategia europea, questa strategia esiste in documenti, è stata fatta propria poi dal Partito Socialista, diciamo europeo, ma era nata nel gruppo parlamentare. Questa ha dentro alcune delle cose dette, quindi l'intervento sul fisco, quindi la possibilità di avere dei diritti sociali. Non scrivi una carta europea dei diritti sociali se non ce n'è almeno uno che possa essere che si possa esigere, altrimenti scrivi delle menate. Quindi c'è scritto dentro che uno di questi diritti potrebbe essere o un salario minimo europeo, che è una battaglia sensata, ovvero che non ci sia un solo cittadino europeo che non abbia contributi sociali, quindi un meccanismo. Scegli una e ne fai la bandiera a livello europeo, l'ha accennato anche Peppe, c'è, questo l'abbiamo messo noi sul tavolo come forum di disuguaglianza e diversità, non basta, devi entrare a gamba tesa sul tema tecnologico. Oggi tu non affronti la monopolizzazione delle conoscenze, la concentrazione delle conoscenze, del potere e della ricchezza senza combatterli sullo stesso terreno, non è più tempi di regolazione, e quindi devi costituire un hub tecnologico europeo che abbia una dimensione tale da dare corpo a quell'alternativa al modello cinese statalista, al modello corporate americano, che è il modello europeo, che sta scritto in un documento straordinario, che è il documento del regolamento europeo sulle informazioni personali e sugli algoritmi, cioè sull'uso dell'artificial intelligence, che come tutti i regolamenti del mondo rimane un regolamento se non ha un utilizzo collettivo, come dice il nostro Giorgio Resta con cui abbiamo lavorato. Quindi questa roba non è che, e fin da ultimo, senza arrivare, e lì per fortuna dissento da quanto affermato prima da Peppe Provenzano sul fatto che il 27 eccetera, la forza dell'Europa, qui sono con Lorenzo Marzilli, il libro di cui segnalo la lettura, la forza dell'Europa è proprio della determinatezza e semideterminatezza, la consapevolezza del limite dei suoi stessi confini, il gioco Turchia non Turchia, il gioco con i nord africani, questa è la forza dell'Europa, è una delle più gravi responsabilità di Angela Merkel, è quello di avere fermato il processo che riguarda la Turchia con conseguenze drammatiche a livello mondiale. Quindi questa è la dimostrazione della, perché l'allargamento è fesso se lo fai regolamentare, è intelligente se lo fai geopolitico. Ciò detto, in quel documento approvato dal gruppo parlamentare socialdemocratico c'è un disegno di modifica del meccanismo, quindi una roba, quella noiosa che ci occupiamo noi, ci siamo occupati di regolamenti europei, che è il funzionamento del semestre europeo, che, di cui si propone la modifica affinché al centro del semestre, che è lo strumento attraverso il quale vengono condizionate e influenzate le politiche di bilancio dei singoli paesi, non sia più orientato solo al bilancio ma sia orientato a obiettivi sociali e ambientali. Quindi entrando nella macchina di Bruxelles senza cambiare nessun trattato e nessun regolamento. Il punto qual è? Che i partiti di questo, né i partiti cosiddetti di sinistra di questo paese, né il Partito Democratico hanno ritenuto di fare di questa piattaforma che poteva trovarli uniti un elemento di forza durante, e dato che io sono convinto che la unità si fa attorno a dei valori, non la si fa in astratto in nome di una presunta forza di stare insieme, la distinzione e la unità vanno, e qui dissento da quello che hai detto Peppe, vanno insieme. Il fatto di non avere scelto l'elezione europea per dire noi l'Europa che vogliamo, l'Europa che ha queste cinque cose che sono uscite fuori molto chiaramente qua, è grave e non è facilmente oggi recuperabile, non è credibilmente recuperabile. Se verrà recuperato è positivo, ed è grave che non sia stato effettuato. Io ritengo, e chiudo, che non sia stato effettuato perché il Partito Democratico non è un partito che ha un'organizzazione che consente di fare un'operazione di questo tipo, perché non è più un partito nella quale, ma non lo era, come disse Renzi, non lo era con Bersani, non lo è con Renzi, non è un problema di Zingaretti. Zingaretti si ritrova con un partito che non è un partito è un'organizzazione almeno federale, nella quale esiste un'organizzazione nazionale che ha un rapporto con i territori, delle quali garantisce la tenuta rispetto a una piattaforma generale, di cui garantisce la selezione della classe dirigente e che in ultima istanza è in grado di intervenire e di mandare a gambe all'aria dei gruppi dirigenti inaccettabili come quelli che dominano larga parte di tutto il nostro territorio nazionale. Questo non è un partito, lo ammise Renzi in una famosa intervista da Milano, che gli disse domini il partito, diceva che domino, il partito è dominato dai cacicchi. Lui si riferiva con la sua sfrontatezza nordica al sud, ma è la stessa cosa, viene al nord, non è un problema del sud, è quello dei potentati. Quindi i partiti, ma non è un problema del Partito Democratico, i partiti sono diventati delle organizzazioni confederali nelle quali esiste un entente cordiale fra un capo nazionale che garantisce i rapporti internazionali e nazionali e dei potentati locali. Questo è il rischio degenerativo. non ha, partiti di questo tipo reggono se c'è una, un leader fortissimo, perché il leader fortissimo non ha bisogno, non gli interessa neanche, spara delle minchiate che non sono frutto di una meditazione, che non si calano, che non si danno compito di essere calate. Anche quando inventano delle cose positive, io ho sempre apprezzato due terzi della riforma, e dico una cosa terribile, della buona scuola di Renzi, anche quando immaginano le cose positive non le possono realizzare, perché non avendo i polipodi territoriali per declinare queste politiche a livello territoriale, non parlano più con gli insegnanti, non sono in grado di ascoltare, non sono in grado di capire la parte, un terzo di cazzate che era stata scritta dentro la buona scuola, e quindi fanno 250 riunioni in tutto quanto il paese, che è un'occasione drammatica, diciamo quella persa dal Partito Democratico, dove ha perso probabilmente tra i 600 e un milione di voti, perché ha fatto la cosa peggiore di tutte, che è ancora peggiore di non fare i processi partecipativi, che fare un processo partecipativo e non raccogliere una sola informazione che era stata fornita agli insegnanti, per cui si è condannato al suicidio su un impianto che non era completamente sbagliato, ma nella testa di tutti la buona scuola è un disastro. Il risultato, adesso non parliamo più di scuola per altri 15 anni. Quindi esiste un tema delicato, importantissimo, per cui non possiamo non guardare con speranza al Partito Democratico, lo dico alla persona che c'è stata e che non ci sta più. Non possiamo non guardare al Partito Democratico, perché la persona che ne ha preso la segreteria attraverso un processo con un forte voto anche di sinistra, c'è un'aspettativa forte, e sappiamo tutti la fatica, e quindi comprendiamo la fatica che può consistere nel prendere in mano un partito deteriorato per responsabilità pregresse di gravi, la cui organizzazione non si presta più in quest'epoca con facilità. Io credo e continuo a pensare, non credo di essere idealista, ma credo di essere da questo punto di vista realista, di essere non lontano, che soltanto attorno a una missione, a dei valori molto forti, si ricostruisce e si fa saltare per aria dei gruppi dirigenti nepotisti, non facendo interventi commissariali o altro. Attorno a quelli tu cambi le regole del gioco completamente, e in quelle regole del gioco entrano improvvisamente altre persone da fuori da dentro, ma questa è un'altra questione, dove però il tema delicato rispetto agli equilibri che ha detto, io condivido le preoccupazioni sui verdi, condivido tutto, però è interessante a livello europeo domandarsi: riuscirà in alcune situazioni il Partito Socialdemocratico Europeo, il Gruppo Socialdemocratico Europeo, attorno a tre delle quattro cose che abbiamo detto, a farne una bandiera senza la quale non è più disposto a reggere il moccolo? Perché se prevale il moderatismo nel Parlamento, a questo punto la previsione drammatica di Franco diventa realista, e noi abbiamo altri 10 punti alla dinamica autoritaria delle prossime elezioni europee, perché questo non ci, quindi se il rifugio è il moderatismo, se non esiste un'alternativa visionaria, noi andiamo a rifare i conti. La prossima volta ci accontenteremo, perché forse esiste appena con 5 voti una maggioranza ancora antisovranista. Pier Giorgio, scusa, ho dimenticato di rispondere a Franco, perdonate al Presidente, non si può non rispondere, un minuto solo, non ho concluso il ragionamento, cioè qual è il punto per superare quegli egoismi nazionali dentro al Consiglio? Servono partiti più europei, servono corpi intermedi più europei, ero con i sindacati la settimana scorsa a Bruxelles, italiani, tedeschi, ungheresi e polacchi, abbiamo parlato di tante cose divisive tra cui l'immigrazione, servono associazioni più europee e serve un dibattito più europeo, ma servono anche quelle piazze più europee, perché questo Parlamento soffre il metodo intergovernativo, ma non è abbastanza forte sulla carta per rovesciarlo se non c'è una grande mobilitazione popolare che accompagni in quella direzione. Quindi io credo che la strada sia questa. Grazie. Bene, grazie davvero, grazie a tutti per essere rimasti così tanto.